Ciao a tutti e benvenuti all'undecimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Stasera, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo l'ubiquo o obiquo Andrea Maderna. Ciao! Il nostro mai ospite speciale, ma di casa, Paolo Cego, direttamente da Game Petwork. Buonasera, grazie mille di avermi qui ancora una volta. Esattamente un anno dopo la sua prima apparizione al Tentacolo, abbiamo di nuovo l'onore di ospitare Pierpaolo Greco direttamente dalle frequenze di Multiplayer.it. Salve a tutti, grazie soprattutto per la pazienza. Abbiamo appena iniziato. Quindi... Sì, no, perché diciamolo che è un'ora che lo stiamo aspettando. Aveva scritto arrivo fra 3 minuti, poi c'è la concessione diversa del tempo. Comunque, siamo qua a fine anno per parlare un po' di questo 2010 che sta finendo, ormai miseramente per quanto mi riguarda. Ma per quanto riguarda l'Italia tutta, diciamo. Ma questo, come dire, sono valutazioni che faranno i nostri figli. E, okay. Ma purtroppo anche noi ho paura. Dunque, sì, a proposito dei figli, se sentite una ragazza gridare in lontananza, io devo partire per l'ospedale. L'hai fatta la borsa? Oh, sì, la borsa, ce l'ho 3 di borse addirittura. Non puoi connetterti tipo col portatile, fai in diretta il parto. No, direi che non è il caso. Va bene. Allora, cari ragazzi, com'è stato questo 2010 videoludico, ma anche nel mondo dell'entertainment, secondo voi? Pierpaolo, dici tu. Che non lo sapevo come prima. sei l'ospite. Una domandina così, no? Da risposta secca. Esatto. No, non lì faccio, non lo chiede a me, non lo chiede a me, non lo chiede a me. È stato un anno brutto, un anno bello, un anno medio, secondo te? Come l'hai vissuto? Allora, dal punto di vista videoludico, no, magari un anno brutto no, ma sicuramente un anno splendido. Più che altro noi proprio in questo periodo stiamo pensando anche un pochettino a fare un po' di valutazione anche noi sui giochi dell'anno e così via. Concettualmente è stato un grande anno di sequel, quindi non di grosse novità o almeno degne di nota a un certo livello. Per cui un anno di transizione, un anno medio, le cose grosse si sono viste in chiusura di anno, c'è questa solita incognita del Kinect, questa solita incognita del Move... Sì, che sono arrivati, hanno fatto buone vendite, però ancora non si capisce dove andranno a parare, secondo me, puramente personale. Dal punto di vista intrattenimento generale, cioè, ce ne starebbe per un miliardo da dire, quindi questa domanda è enorme, esistenziale proprio. Comunque un anno medio, diciamo. Secondo me è medio, sì, dal mio punto di vista, soprattutto videoludico, medio. Senza grossi sprazzi da un lato e come al solito, fortunatamente, senza neanche grossi sprazzi negativi. Paolo, secondo te invece? Guarda, io mentre mi preparavo psicologicamente per, appunto, per il podcast e per il parto, in questo ordine ovviamente, pensavo un attimo ai giochi che ho giocato quest'anno e mi sono reso conto che ce n'è soltanto uno che è appunto uscito quest'anno di quelli che ho giocato, credo tra l'altro. Che è Metro 2033. Esattamente, è un po' di generale, Metro 2033, che è da 3 puntate che io vi propino tutte le volte, perché è l'unico gioco che mi sono reso conto di aver giocato ultimamente, che ho finito però nel frattempo. Oh Gesù, così. Quindi per me ovviamente il gioco dell'anno è Metro 2033. No, purtroppo non ho avuto molto tempo di giocare le ultime uscite, però per quanto riguarda l'intrattenimento in generale, diciamo che è l'anno in cui è uscito Inception e per quanto mi riguarda io sono a posto per altri 5-6 anni volendo, perché mi ha lasciato davvero un buon retrogusto in bocca quel film. Bene, e per creare subito un po' di dibattito, caro Andrea, Pierpaolo ha appena detto che un anno di sequel, un anno di rimestamenti di titoli, eppure i Video Games Awards l'ha vinto Red Dead Redemption, che è un titolo originale. Cosa ci puoi dire di questa, insomma? Non ho capito perché lo chiedi a me, che non gioco un gioco Rockstar da Grand Theft Auto 1. Era per fare un po' di dibattito, no? Insomma, okay, tecnicamente è un sequel anche... Ma sì, è Grand Theft Auto 5, dai. No, mi riferivo a Red Dead Revolver. Sì, tra l'altro è vero, è un sequel anche questo, quindi t'ha fregato. Porca troia, di cosa è un sequel? Scusa. Ed è di Red Dead Revolver. Cioè, un seguito per modo di dire, però... Esattamente, non ha molto a che vedere con l'originale, comunque. Non hai la minima idea di quello che stiamo dicendo? No, assolutamente no. Ma sul serio è un sequel di Red Dead Revolver? Sì. Beh sì, è un sequel solo a livello... No, però, esatto, non ha ragione Andrea, cioè, è lo stesso studio, ma fa presto dire lo stesso studio, cioè non ha... Tra l'altro, è un gioco completamente diverso. Vorrei dire che uno dei producer si chiama John Ricchio. Non so poi se l'accento magari vada da un'altra parte. Vabbè, scusate. No, loro lo dicono, loro, no, loro dicono, no, loro dicono Ricchio. Ah, ok. Qua abbiamo diversi problemi tecnici. Sì. Pierpaolo è caduto di nuovo nel cesso. Ah, bene, sarà simpaticissimo da editare questo podcast. È tornato. Buonasera. Eccoci. No, eravamo rimasti sul fatto che mi stavano bastonando a sangue perché non sapevo che Red Dead Redemption è il seguito di Red Dead Revolver. Esatto. Perfetto, grande figura che mi sono fatto. Sì, vabbè, ma un seguito spirituale, non di stare a picchiarci. Cioè. E comunque, nelle nominees del Game of the Year manca, a mio avviso, clamorosamente Alan Wake, che, vabbè, nel mio caso è quello che leggerò il gioco dell'anno. Comunque vedo il solito Call of Duty, che è anche carino, God of War 3, che dovevano metterlo per forza, Halo Reach, che dovevano metterlo per forza, e Mass Effect 2, che, vabbè, Okay. Tra l'altro io di questi 5, l'unico che ho giocato è God of War 3, e non ce l'avrei messo. Addirittura? Ma sì, ma dai. Io da grande fan di God of War forse neanch'io ce l'avrei messo. È un grandissimo gioco, tecnicamente strabiliante, però... E cosa avreste messo? Io metterò Io in realtà non c'è, come faccio a rispondere a una domanda così, avendo giocato solo God of War 3 di quei 5? No, beh, io avrei messo sicuramente Alan Wake, avrei messo Heavy Rain perché comunque a me è piaciuto tantissimo, Mass Effect 2 probabilmente l'avrei messo, Halo Reach, e avrei tolto anche Call of Duty Black Ops, anche se a mio avviso è il miglior Call of Duty come storia degli ultimi anni, non ce n'è. Ma sai cos'è? Sai cos'è forse anche? Che questi 5 forse sono anche le scelte facili da mettere nelle nomination del gioco dell'anno. Mentre un Heavy Rain, un Alan Wake, stai un po' più facendo il figo se lo metti fra le nomination. Sì, stai facendo un po' troppo la critica, probabilmente. Cioè, non voglio dire che non ci possano stare, però nell'ottica di quello che sono questi premi qua, è come, non lo so, mettere... Non so, forse fai un po' fanboy, qua hanno messo comunque due... Cioè, per mettere due titoli in esclusiva, qua hanno messo... Vabbè, Mass Effect 2 adesso esce anche per Playtime, però hanno messo God of War 3 e Halo Reach come esponenti delle due... Sì. Anche sì. Ma le nomination di Spike's TV, chi le decide? È una cosa che lo fa il pubblico con una specie di televoto o comunque emails varie? O è una cosa che c'è un tipo un panel di giudici che appunto, tipo per le Academy Awards, che decidono le nomination? Per esempio c'è quello di GameSpot. GameSpot sta, credo in questi giorni, sta facendo questo sondaggio. Allora, e ognuno può andare lì e votare chi preferisce. Guarda, qua su Wikipedia, non so poi quanto sia affidabile, perché sappiamo che Wikipedia dice che c'è il VGA Advisory Council. Okay. Alcuni fra i giornalisti più rispettati dell'ambiente. Come per esempio allora... Entertainment Weekly e USA Today. No, però allora vedi che sia Alan Wake che quell'altro che avete menzionato, non credo che a livello di recensioni o prendi anche soltanto Metacritic, il famigerato Metacritic, siano altissime come percentuali Alan Wake. Io mi ricordo alcune recensioni di Alan Wake che non ho giocato personalmente, ma che comunque, non dico che lo stroncassero, però non era che erano tutte rose e fiori, insomma. Deve piacerti. Però, ecco, io adesso qua faccio l'angolo della polemica. Oh, finalmente. Perché io con o senza spoiler? No, senza spoiler, tranquillo. Oh, perfetto, non ti ascolto. Sto leggendo appunto, vabbè, io sei Today, ma comunque insomma anche gente di Kotaku, Game Info, Penny Arcade, per cui insomma la stampa. E questo me li rende i premi un po' del cazzo, personalmente lo dico facendo parte della stampa, perché piuttosto preferisco, con tutti i problemi che possono avere, gli Oscar, dove a decidere è gente che lavora nel cinema. Sì, sono d'accordo. Incontestabile. Più che altro, scusa se vi interrompo, più che altro, secondo me fra le nominees, a parte questo Red Dead Redemption, bello però, non lo so, non l'avrei mai dato come gioco dell'anno, tre sono praticamente non mettibili appunto per il mercato americano, come diceva prima Andrea, perché il God of War fondamentalmente è l'unico gioco PlayStation che vende forte in America, quindi come saga, come tutto, quindi non potevano non metterlo. Halo Reach non ne parliamo, Call of Duty è l'altro super venditore in America e probabilmente i VGA in grossa parte sono dei grossi catalizzatori a livello commerciale, a livello proprio di quella forma di intrattenimento, per cui era anche abbastanza scontata fare quel panel. Certo, tirare fuori Red Dead Redemption, probabilmente sentono tanto la parte americana, non lo so, non ho idea, il selvaggio West e questa roba qui. Beh, però è un titolo... Io per quel poco che l'ho giocato, perché dicevo prima in fuori onda... che ho giocato una decina di missioni, però è un titolo veramente bello, cioè non è proprio solo GTA nel West, ha tante idee diverse, ha un'ambientazione che io pensavo, prima di giocarci pensavo, dicevo, ma come cazzo si fa a fare un gioco nel West, ma figuriamoci, eppure quando ti trovi a cavalcare piano piano nella notte con i rumori del fighissimo, cioè è stato anche non lo so, nel senso che io pure l'ho giocato tantissimo, io ho giocato tutto quanto, l'ho finito, ci ho giocato veramente tantissime ore, è sicuramente un bel titolo a livello di contenitore, cioè è bellissimo per tutto il mondo di gioco che hanno ricreato, veramente ti ritrovi a fare tanta roba, però secondo me le missioni, cioè tutta la parte di trama, le missioni sono veramente di una piattezza estrema, cioè sono veramente tutto uguali senza mai dei grossi alti, senza, cioè molto piatta la storia, molto sì bella, ma cioè non è assolutamente GTA. Poi sicuramente hanno fatto un mondo di gioco che è incredibile, però la piattezza della storia secondo me non lo porta ad essere il gioco dell'anno, dal mio punto di vista puramente personale. Capisco. Io ho notato l'altra cosa invece. Dici. Dal modo in cui hanno assegnato i vari awards nelle varie categorie. Ora, non so se, dato il fatto che comunque questi awards credo siano abbastanza giovani, dico una cavolata. Sì, no, effettivamente non è tantissimo, almeno che sono alla ribalta, cioè, mondiale non è tantissimo. Che se io prendo come metodo di riferimento cinematografico l'Academy Awards, loro mi sembra che si facciano ben pochi scrupoli ultimamente a stroncare qualsiasi cosa. Nel senso, loro vanno, se un film vince il film dell'anno, lo capisci magari già da parecchi awards prima che annunciano il film dell'anno. Perché, cioè, insomma, non... mentre quelli per gli Spike TV sembra quasi che abbiano voluto dare un attimo un contentino un po' a tutti, tranne il povero Alan Wake, che ora non ci ho giocato, magari si meritava molto di più. Però, per esempio, anche il fatto che uno dice: ok, il gioco dell'anno è Red Dead Redemption, però in altre categorie pesanti non c'è, cioè soltanto in quella finale. Esatto. Cioè, non c'è nel miglior gioco adventure che è nato a Assassin's Creed Brotherhood. È quella la cosa folle, se ci pensi. Sì. Perché... secondo me, ora io non so Spike TV, ma magari sono un complottista, però mi sembra che ci sia stato un piccolo sforzo di dover dare un contentino a tutti per, insomma, non so, per accontentarli. Ecco. Mentre l'Academy Awards, se ti prende e ti dà anche 11 Oscar di fila allo stesso film... Sì, e a casa gli altri, insomma. Sì, quello è vero. Beh, anche lì dipende anche da come funzionano le votazioni. Io sinceramente non ne ho idea, non so se ci sia se sei tipo al Festival di Cannes, per dire, dove comunque c'è una giuria con un presidente e si decide, o se semplicemente ognuno qua dà il suo voto e quindi è un po' a cazzo quello che succede. Probabilmente è così. Però effettivamente, mi ricordo, se non sbaglio, anche l'anno scorso era venuta fuori questa cosa che suona un po' strano che un gioco che è il miglior gioco dell'anno poi non vince nella categoria del suo genere. Sì. Era Uncharted 2 che Uncharted era stato battuto, però aveva vinto PS3. Sì, esatto. E invece vedo che con mio estremo dispiacere nella nomination per i giochi del Wii manca GoldenEye 007, cioè un Metroid Other M che secondo me è di gran lunga inferiore. Però quando è uscito GoldenEye? È uscito un mese fa. No, perché vedo qua che fino al 23 novembre era. Allora sto zitto, datemi fuoco. No, magari è uscito prima, non lo so. No, GoldenEye no, è uscito. No, mi sa che è uscito. Il 9 dicembre mi pare. Allora mi spiace. Datemi fuoco. Okay. No, sei sicuro? Non è uscito prima di Call of Duty? No. Addirittura. No, è uscito dopo. Sicuramente dopo, guarda. Adesso vado a controllare live. Forse mi confondo con l'altro. Scrivendo su Wikipedia GoldenEye 007. No, il più veloce. Qua leggo 2 novembre, 5 novembre, quindi era eleggibile. Prima di Call of Duty. Penso che ho letto 25 agosto 97, ma era quello vecchio, quindi sono pagina. Molto prima in quel caso. Quindi era eleggibile, secondo me, cioè gli altri due non li ho giocati, però mi sembra talmente pupazzoso e talmente Nintendo. Metroid, dimenticabilissimo. Ma sai cos'è? Che comprensibilmente si sono dimenticati che su Wii ci sia anche gente non Nintendo che pubblica cose. È vero, hai ragione. E invece, l'anno scorso la buona Valve aveva vinto il premio per miglior gioco 360 col suo lì gli Zombie 2 con Left 4 Dead 2, e quest'anno invece si porta a casa il premietto come gioco più atteso dell'anno dopo, del 2011, con Portal 2, e sono perfettamente d'accordo, perché è sicuramente il gioco più atteso. Most Anticipated Game. Io sarei d'accordo. Tu lo consideri il gioco più atteso? Sì, sì. Sconfitto. No, dico, per te personalmente, veramente hanno fatto bene a far vincere Portal 2 come gioco più atteso del 2011? Allora, questo l'ho pensato considerando che è un che non si sa quando esce, non so come dire, nel senso che una volta che ho visto che quando hanno presentato adesso i teaser di Uncharted, no, allora, il mio gioco più atteso del 2011 è Uncharted 3, sicuramente. Però come non so come dire, però lo attendo tantissimo, cioè posso capire che stia lì Portal 2, perché è un gioco che mi è piaciuto talmente tantissimo che non la trovo una bestemmia, ecco, questo sì. Cioè tipo di Batman Arkham City, fichissimo, no, sì, però chi se ne fotte, cioè, o Bioshock Infinite addirittura mi sa che non esce l'anno prossimo, se non ricordo male era 2012, tra parentesi, quindi beh, poi insomma è il nuovo gioco di Valve che tende, secondo me è più il fatto quasi che è il nuovo gioco di Valve che il fatto che è Portal 2 gioco di Valve. Sì, poi non si vedrà mai Half-Life 3, però questo ormai... Io invece, prima che me lo stroncasse Andrea, tipo due episodi fa, dopo aver visto l'extender trailer di Deus Ex Human qualcosa, ha scalato la mia vetta di giochi più attesi, sinceramente. Ma perché l'ho stroncato? Non è vero? Mi sembra che tu abbia visto... Non mi ricordo. No, non è stroncato. No, aveva detto che sperava fosse veramente una versione alfa o beta, perché tecnicamente era una merda. Ok, sì, no, questo è vero. Quello che ho visto tecnicamente è vero. Però già dal trailer sembra un pochino... Secondo me sarà un fattore di nostalgia, che comunque il primo l'ho adorato tantissimo. Però in quel trailer no, e pure credo non ci sia nulla di gameplay, tra l'altro, fra le altre sì, cose pochino. Però l'hanno messo davvero, l'hanno tirato su ad arte. Guarda, io non so se stiamo parlando dello stesso trailer. Io ho visto oggi quello che dura tipo 5 minuti. Esattamente, quello. Che è molto figo. L'unica cosa è che, cioè, quando parlano sembra che tipo hanno preso tutte le frasi più fighe che gli venivano in mente, le hanno messe in fila a cazzo di cane. Vabbè, è un trailer, dai, no, ma è normale, perché è un trailer, penso, fatto dai giapponesi di Square Enix, quindi vabbè, è normale. Ah, che sì. State parlando del trailer, quello tipo Blade Runner, con lui che sogna, poi si sveglia. Ok, sì, sì, sì. Bello. Beh, bello, bello, effettivamente. E quindi personalmente ha scalato anche Portal 2, nonostante Portal 1 sia appunto un gioco incommensurabilmente bello. Sì, io ho canticchiato per mesi la canzoncina finale di Portal. Sì, ecco, tra l'altro, cioè, per una categoria in cui premiano Portal 2, allora a sto punto, secondo me, che cazzo c'entra Gears of War nelle nomination? Voglio dire, fanno i fighi premiando Portal 2, allora mettici appunto piuttosto Deus Ex. Sì, non era neanche in Lizza? Come? Non era neanche in Lizza? Non era neanche in Lizza. Invece Pierpaolo dicevi? Sì, magari metti dei titoli un po' più ricercati a quel punto, sì, piuttosto che buttarci in Gears of War 3. Sì, peraltro, per quanto io sia anche un fan della serie, non è proprio un gioco che cioè sì, lo giocherò, sì, figata, sì. Però appunto un Uncharted 3, ma lo stesso nuovo titolo di, come si dice, di Bethesda, che però mi sa che esce nel 2012, esatto. No, no, Skyrim esce novembre 2011. E beh, anche quello lo trovo. Beh, Davide, ma pensi di riuscire a dire qualcosa su cui non ti viene detto che stai dicendo minchiate prima? No, è che volevo confermare la cosa, che gestisco un podcast di cui non so di cosa si parla. Va bene. Ma questa dai. Appunto, hanno presentato i teaser di diversi giochi molto attesi per l'anno prossimo, e la cosa che mi è venuto subito in mente è che tutti escono a novembre di nuovo, perché tanto per cambiare. Uncharted 3 il primo di novembre, che quando ho letto, io sempre mi dimentico che gli americani hanno la data diversa dalla nostra, quando ho letto 11-1-2011 avevo già il portafoglio in mano pronto ad uscire di casa. Poi mi sono venuto il fatto che forse avrebbero aperto i pre-order un po' prima, e allora ho ricambiato la data. E poi appunto quello di Bethesda, c'è un altro che hanno presentato che esce sempre in fuori, Resistance. Resistance 3, e quello si sapeva che... Settembre però, leggo qua, no? Ah, settembre, è vero, sì. Lì però avevano scritto Fall, mi pare, nel video. Poi posso sbagliarmi, visto che stasera... E... Sì, poi c'è Portal che esce ad aprile, dai, stai dicendo minchiate anche qua. No, beh, ma Portal, quello non lo consideravo. No, di quelli presentati, però, e oltretutto c'è il solito, ci sarà il solito Call of Duty, Forza 4, c'era scritto Fall 2011. Sì, sì. Quindi, insomma, ci sarà di nuovo l'accrocchiamento... Come sempre. Esatto, da cui scappa però Killzone 3, per fortuna, che almeno quello qualche cosa... Esatto, però ti puoi consolare con quel bellissimo teaser di Insane, il gioco di Guillermo del Toro, che esce nella bellezza del 2013. Sì, ho letto questa cosa. Che... Sì. Si capiva dal teaser che non si vede assolutamente nulla. Se uscisse prima nel 2013 io mi starei già preoccupando per la qualità generale del prodotto. Fra l'altro è bello l'elenco, esatto, l'elenco e lui ha voluto già dire che sarà una trilogia. Ma quello si dice, faccio una roba nuova, è una trilogia. Anche To Human doveva essere una trilogia. Tu è una trilogia. Silicon Knights, poveri Silicon Knights. E quelli sono finiti proprio male. Sono finiti proprio male. Ci sono di fare un Eternal Darkness, io sono contento. Ma non lo riesci più a fare. Dai, facciamo la colletta tutti assieme. Non lo riesci più a fare. Adesso o fai una cosa che ti... Giga Splatter o quella roba sofisticata come Eternal Darkness non piace più. Venderebbe tre copie. Una la compro io e... Le altre due, sempre io probabilmente. Mi era piaciuto tantissimo Eternal Dark. Dicevi, Andrea, scusa? No, ma una minchiata, ma come tutto quello che dico, ma stavo notando qua sull'elenco dei giochi, sempre su Wikipedia, perché io ormai faccio il podcast con Wikipedia e basta, che c'è Uncharted 3, Resistance 3, Portal 2 e Mortal Kombat con Kratos. Il punto di Mortal Kombat è che c'è Kratos, Mortal Kombat chi se ne frega. Immagino solo una versione PS3 della Kratos. Eh sì, è un po' triste come cosa. Vabbè, è anche normale. No, però non mi aspettavo l'annuncio del titolo di Bethesda, del nuovo Elder Scrolls. È vero. Non me l'aspettavo proprio. Soprattutto così vicino, cioè perché... per un gioco grande sorpresa, sì. Come? Sì, con grande sorpresa quella. Eh sì, perché oltretutto per un gioco del genere, magari avessero detto esce nel 2012, boh, uno ci stava anche. Addirittura nel 2011 mi sembra... Poi hanno pure annunciato una notizia che a quanto pare usano pure un engine tutto nuovo. Sì, e meno male. Finalmente. Sì, quello apprezzo anch'io lo sforzo, però se esce così presto... Scusate, quando è uscito Fallout 3? Adesso io non presente, che anno è uscito? 2008. Beh, alla fine, 3 anni dopo, perché comunque... No, poi tra l'altro Fallout è il motore di Oblivion, oltretutto, pochissimo. Sì, quindi vai a sapere da quanto lo stanno facendo. Infatti, di motore. Scusa, ci siamo parlati addosso, scusa. Sì, no, più che altro io ho questa connessione magnifica. Dico, finalmente un motore in cui ti riesci a vedere da fuori quando salti in un modo credibile sarebbe fantastico. Potrebbero chiedere a Naughty Dog il motore di Uncharted 3, che peraltro dicono che tutto quello che hanno fatto vedere del teaser di Uncharted 3 è con la grafica del gioco, cioè col motore del gioco, è impressionante. Perché... Ma dovrebbero chiedere il Tech 5 a ID Software a sto punto, visto che ce l'hanno in casa ormai, almeno quello potrebbe dare una mano. Ha ragione, hanno acquistato, l'hanno. Sì, quello sì, ma secondo me quelli di Bethesda, il team che fa Oblivion e tutto, sono troppo schizzinosi per chiedere una cosa del genere a gente che spara e basta, oh, siamo pazzi. Sì, sì. Bene, invece i nostri, parliamo i nostri 3 titoli più fighi, la delusione dell'anno, così giusto come l'anno scorso, inizio io, così nessuno si sente problematico, allora... Vorrei ricordare che l'anno scorso era tutta una cosa PlayStation 3, peraltro ho messo anche Vidzon al terzo posto, cosa che mi ha valso qualche bestemmia dietro. Comunque, al primo posto quest'anno come gioco dell'anno metto sicuramente Alano Sveglio, Alan Wake, al secondo posto metto sicuramente Heavy Rain, e al terzo posto sono molto molto indeciso tra effettivamente... GoldenEye 007, che ma così un premio al capolavoro che è tornato, sperando magari che lo facciano anche su console, non lo possono fare per motivi di copyright, ma un giorno o l'altro, se Nintendo lascia che si faccia, anche su console ciccione, perché insomma il gioco è veramente bello, purtroppo la grafica è quella che è, e tra GoldenEye 007 per Wii e, devo dire, Call of Duty Black Ops mi è piaciuto, mi sta piacendo, perché non l'ho ancora finito, ma veramente tanto, tanto, tanto. Sicuramente Activision, non, almeno per quanto mi riguarda, non sentirà la mancanza di Infinity Ward, se Treyarch fa dei giochi del genere. No, Infinity Ward ce l'ha ancora. Sì. No, forse hai ragione. Diciamo che non sarà più teoricamente quel propulsore del titolo più importante del franchise Infinity Ward, insomma, da questo punto di vista ti capisco quando dice questa cosa. Esatto, bene, meno male che qualcuno mi... no, però mi ha colpito, pensavo fosse una cazzata immonda, appunto, perché hanno, insomma, la trama è nuova, è ambientata in un periodo storico interessantissimo, però anche complicato da gestire, invece secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. La delusione dell'anno in realtà non l'ho giocata, cioè io ho giocato solo giochi che mi sono piaciuti, devo dire, quest'anno, però forse leggendo le recensioni Epic Mickey è stato veramente quello che avrei comprato a occhi chiusi se non avessi letto n.000 recensioni dove sì, è carino, però ci aspettavo molto di più. Quello è stato Warren Spector, forse ci ha azzeccato con il primo Deus Ex, ma sarà veramente un grande. Crollato miseramente. Su, a parte Metro 2033, che probabilmente... mi hai sciupato il sorpresore, e io, ovviamente, il gioco migliore del 2010, ovviamente, Metro 2033, anche se la verità non è che mi sia piaciuto poi così tanto, ma lui... e basta, perché ho giocato soltanto quello di quelli nuovi. La delusione sulla fiducia, guarda, non ti indisporrò, ma direi Heavy Rain, perché conoscendo David Cage, sicuramente, quando finalmente ci giocherò, non mi piacerà per niente. Per due motivi: uno, per come ha la concezione che ha in merito alle meccaniche di gioco, cosa lui ritiene sia divertente da giocarsi, e il modo in cui lui scrive è proprio un'altra cosa che, come dire, non mi va troppo a genio, purtroppo. Quindi, delusione dell'anno sulla fiducia, Heavy Rain. Vado io? Vai. Mi piace delusione dell'anno sulla fiducia, veramente... particolare. No, io allora, soprattutto in contrasto a quello che hai detto prima, io metto sicuramente come primo God of War 3, perché invece a me è piaciuto da impazzire. Per me personalmente è il gioco dell'anno nel 2010, perché comunque mi ha elettrizzato dall'inizio alla fine, anche i pochi tempi morti che ha sono più che trascurabili, soprattutto nel panorama di quello che è uscito nel 2010 che dicevo all'inizio. Poi non lo so, secondo posto... non è semplice, secondo posto... Terzo posto metto anch'io Call of Duty Black Ops, là ci vado sicuro, perché come detto te, secondo me è il miglior Call of Duty di tutti i tempi, l'ho detto anche in più di un'occasione. Secondo me sì, è il miglior Call of Duty in assoluto, perché ha la stessa forza che ebbero il secondo Call of Duty, quello che uscì al lancio 360, insomma intorno al lancio 360, e del primo Modern Warfare, però con una modernità, comunque sfruttando il fatto di dove siamo arrivati oggi con la tecnologia e tutto quanto, quindi riesce a, secondo me, proprio a esplodere nel migliore dei modi. Parlo solo ed esclusivamente del single player, mi vorrei impelagare in tutta la diatriba server dedicati, bla bla bla. Comunque a livello single player secondo me è il migliore in assoluto, veramente l'ho trovato esaltante per quello che mi riguarda. Poi non lo so, veramente il secondo posto faccio fatica, perché comunque io ho apprezzato tantissimo StarCraft 2 da bravo PCista, comunque mi sono proprio stra goduto. Mi è piaciuto moltissimo il GoldenEye per Wii, sono d'accordissimo con te, quindi magari metterei questi due a pari merito, più che altro per lo sforzo, soprattutto nel caso di StarCraft, di Blizzard, sì, che ha fatto veramente il lavoro, si è portato a casa il lavoretto, però comunque è riuscita al solito a fare tutto rifinito alla perfezione senza nessuna parte negativa, per intenderci. Beh, peraltro un titolo così atteso da una nicchia, cioè da un preciso gruppo di persone, se falliva falliva proprio miseramente, invece ha fatto un botto, quindi... Però stavo leggendo giusto prima un articolo su Edge dove dicevano che in Corea, che per ovvi motivi è un mercato dove puntavano un sacco, stanno faticando con sto StarCraft 2. Ma quello è un altro motivo perché vogliono, no, io non dico, il termine sbagliato è fare i furbi, ma perché Blizzard ha cominciato a voler mettere dito su come viene distribuito televisivamente il gioco. La cosa non è andata molto bene ai coreani, a quanto pare. No. Delusione, io qua rischio di essere ucciso, però per me personalmente delusione dell'anno è Halo Reach, semplicemente perché io sono stato un iper adoratore del franchise del primo Halo, che per me è stato veramente il punto di svolta. ho apprezzato il secondo per il grandissimo punto di svolta in termini del multiplayer. Il terzo mi ha fatto venire dei conati di vomito che ancora oggi sto cercando di rimandare giù, e diciamo mi sono approcciato all'Origin nella speranza di dire, cazzo, è l'ultimo che fa Bungie, cioè ci avrà messo veramente delle cose fighissime, dai, proviamoci. Secondo me veramente il single player proprio è, cioè, non lo so, proprio al di sotto della peggiore aspettativa. Beh, proprio... è un po' banalotto, secondo me è un po' banalotto come... Cioè, sì, non sì. Puoi lasciare quel segno per chiudere il franchise. Io non l'ho giocato, ma te lo appoggio sulla fiducia, anche perché per me i conati di vomito, non giocandolo in multiplayer, sono cominciati già col 2, per cui... No, il 2 invece... Quella, diciamo, il 2 io lo trovai veramente raccapricciante come single player. Io purtroppo in multiplayer ci ho giocato poche volte, perché gioco così poco che appena entro nelle stanze anche in Call of Duty, pam, subito muoio, quindi non è che... No, però sai, il secondo era stato un punto di svolta, perché fu il primo fondamentalmente a portare il matchmaking, cioè comunque fu grossissimo come multiplayer, poi indipendentemente da quanto ho giocato, anch'io non sono proprio un adoratore del multiplayer alla Real Tournament, va in giro saltando come un pazzo, con tutto quel tipo di fisica e tutto quanto. Però comunque fu un punto di svolta proprio per cioè per rendere semplice il gioco in multiplayer, quello bisogna riconoscere. Il 3 proprio fu veramente, cioè, un abominio, ma, sotto il punto di vista. A me non è spiaciuto il 3, mi è piaciuto più il single player, mi è piaciuto più il 3 fa caga. Mamma mia. Se posso invece fare una critica a Call of Duty Black Ops, che mi sta piacendo tantissimo, è troppo violento, cioè ci sono delle scene veramente eccessive. Se posso fare un piccolo spoiler, cioè tu sei un agente della CIA e devi far parlare un tizio, e cosa fai? Sfondi un vetro, gli fichi un vetro in bocca e inizi a picchiarlo tu picchiando il tasto A sulla bocca. Insomma, alla Jack Bauer. Sì, però dato che sei tu che pigi, insomma, potevano evitarselo. Poi vabbè, sgozzamenti, ma non erano quelli di Treyarch che dicevano che non c'erano sgozzamenti in Call of Duty? Era quella l'idiozia dello spezzare il collo. Spezzare il collo, scusa. Perché era troppo violento. Sì, qua sgozzi gente ogni 5 secondi. Cioè. Se in quello prima c'era il famigerato livello No Russian, dovevano in qualche modo andare oltre, cioè magari... Sì, basta però. Siamo già andati oltre, torniamo indietro, che è tanto. E invece Maderna, su. Sì, dunque. Vai. Allora, io non mi ricordo neanche cosa ho giocato quest'anno. Sono talmente rincoglionito dal Kinect. Esatto, da tutti sti cazzo di giochi di Kinect che devo recensire, non ci sto capendo più niente. Però stavo scorrendo qua un elenco. Dunque, cosa ho giocato? Ho giocato Crysis. No, vabbè, allora, quest'anno, magari storcerete il naso, ma mi sa che alla fine i due giochi con cui mi sono divertito di più, anche se non mi piacciono fino in fondo, perché a me piace comunque avere una bella storia e, insomma, da quel punto di vista danno poco, probabilmente sono Mario Galaxy 2 e Bayonetta. Sì. Ma proprio perché mi ci sono divertito. Ti appoggio Bayonetta. Io li ho trovati stra divertenti e fatti bene come giochi, ma poi mi manca la parte, ok, raccontami anche qualcosa che mi interessi. Sì, beh, insomma, Mario Galaxy effettivamente una trama profonda, non ce l'ha mai avuta. No. ma è pure peggio dell'uno sotto questo punto di vista. che sembra una barzelletta, ma è vero, l'uno almeno c'aveva questa atmosfera un po' da fiaba, nel due proprio niente. No, ci sono livelli, tu giochi, vai avanti. Infatti, però sì, probabilmente come giochi in senso stretto sono i due che mi hanno divertito di più. Perché poi sì, anche a me è piaciuto un sacco Alan Wake, però anche lì mi sono un po' rotto i coglioni a salire su sta montagna che non finiva mai. Non mi ricordo, cos'era? Quarto episodio, tipo? Vabbè. Sì, è il quarto, quello lunghissimo, sì. E scusa, io ci terrei a dire che Alan Wake a me è piaciuto tutto, DLC compreso. Ma è stato... i DLC mi sono piaciuti da matti. I DLC sono fantastici. Sì, è vero. Questo ecco, guarda, al terzo posto ci metti due DLC di Alan Wake. Così abbiamo... E poi metti Alan Wake come delusione. Delusione? Adesso mi vengono in mente tre giochi, ma che però non sono delusione perché un po' me l'aspettavo. E sono Bioshock 2, Dead Rising 2 e God of War 3. Ma in realtà la vera delusione mia di quest'anno è una delusione al contrario, ed è Heavy Rain, perché ero convinto mi avrebbe fatto cagare, invece mi è piaciuto. La bella sorpresa! Volendo, sì. No, ma ci sono rimasto proprio male, quindi... Quindi beh, Bioshock 2 non ti è piaciuto? No, Bioshock 2 non mi è piaciuto. Cioè, allora, volendo posso dire che mi è piaciuto nella stessa maniera in cui dico che mi sono piaciuti Mario Galaxy 2 e Bayonetta, nel senso che come gioco è migliore di Bioshock. Ci hanno inserito un sacco belle idee, il fatto delle sorelline da proteggere, eccetera. Però il problema è che mi fai un Bioshock che non mi dice un cazzo a livello di ambientazione, di storia, di cose. Sa tutto di già visto, più che altro. Sì, tutti già... ma sì, ma poi proprio l'unica parte davvero interessante è la parte, diciamo, finale, cioè, senza stare a dire cosa succede. Però nella parte finale succedono delle cose carine. Sì, però intanto ho giocato un gioco che... Vorrei ricordare a questo punto che se tu qualora dovessi appunto spoilerare qualcosa, Davide si è ripromesso che il bip lo fa di lui di sua bocca con le mie scoregge, boh, non so cosa altro dire, veramente non mi ricordo neanche cosa ho giocato. Ho giocato che nel Lynch di recente, porca troia, mamma mia, il primo adesso devo giocare al primo, mamma mia, il primo. Comunque, e invece ci ha scritto un po' di gente, riassumo velocemente. Allora, Fede il Mito ci scrive che, riguardo ai giochi PS3, segnala Heavy Rain, Bayonetta, entrambi gli Uncharted. Lui fa una lista di giochi che ha giocato quest'anno, quindi sono anche gli entrambi gli Uncharted, God of War 3, Assassin's Creed 2, Soul Calibur 4, Just Cause 2 perché adora fare casino. Per Nintendo DS, Layton 3, per PC, Dracula 3, lui gioca tutto, evidentemente. E infine per iPhone, Game Dev Story, che ho giocato peraltro anch'io ed è fichissimo, una droga mortale, Cut the Rope e remake di Broken Sword. Comunque la sua top 3 definitiva che ha giocato quest'anno sono Uncharted 2, Layton 3 e Dracula 3. Quindi vabbè, su Uncharted 2 siamo un po' in ritardo, però va bene. Invece Natale Ciappina ci dice che il gioco migliore propone Bayonetta, incredibilmente vario e potenzialmente iper longevo, come peggiore invece Fable 3, e adesso Fable 3 tornerà più volte. Il buon Molineux, ci siete ancora? Sì. Okay. Sì. Aspettiamo di vedere come pronunciavi Molineux, che io non lo so pronunciare, quindi... Molineux, come quella dei frullatori, la Molineux. Comunque, poi Antonio Benedetto ci dice che lui inserisce Mass Effect 2 e lui dice che almeno il 75% degli utenti che ci hanno giocato non hanno minimamente prestato attenzione a tutti i particolari dettagli che il gioco presenta. Mi sembra un po' alta come percentuale, però insomma, notevole anche Red Dead Redemption. E infine Bayonetta che ha avuto tantissimi, cioè è piaciuto un sacco di gente, e tra i peggiori si colano i prodotti e gli studi più sboroni di sempre, ovvero Fable 3 e Gran Turismo 5, per insomma i motivi che tutti conosciamo. Gran Turismo 5, mille auto che fanno, insomma, non sono a livello delle altre, eccetera eccetera, e invece il titolo Lionhead è che banfano sempre a nastro e poi il gioco è sempre meno interessante di quanto insomma appaia dalle press release. Poi invece Francesco Landini, che non si ricorda cosa è uscito quest'anno, comunque il peggiore è sicuramente bravo come me, Francesco. Come me. Comunque il gioco che ha preferito è Assassin's Creed Brotherhood, è l'unico titolo che non ha rivenduto quest'anno. Invece il peggiore è stato Fable 3, anche per lui è stata, come dire, la delusione dell'anno. Invece il nostro Francesco Fazzini, Pierpaolo, che ha scritto una mail di 8400 caratteri, sembra una recensione di quelle tipo StarCraft, l'ha sorpreso molto, a lui è piaciuto Alan Wake, nonostante tutto, DLC compresi. Poi Darksider, gli è piaciuto molto, invece quelli che le hanno deluso sono Splinter Cell Conviction, e il più brutto è Prince of Persia, il tie-in non tie-in che The Forgotten Sons. Vabbè, un gioco del genere non deve neanche entrare nella discussione. Sì, infatti, perché ci aspetti qualcosa da Prince of Persia e tie-in. Vabbè, però se l'ha deluso. Anzi, si pente addirittura di averlo pagato 13 euro da qualche sito di YouTube. Cattiveria. Addirittura si pente. Esatto. E invece si rammarica, non avendo la PS3, di non aver potuto giocare a Heavy Rain. Questi sono i gentilissimi ascoltatori che ci hanno fatto pervenire le loro preferenze. Vedo che Fable 3 è piaciuto un sacco di persone. Io non l'ho giocato, ma deve essere veramente una merda. Cioè, Sì? Neanche io, però ho avuto pareri discordanti, devo essere sincero. Cioè, da una parte è stato adorato e dall'altra è stato veramente odiato, disprezzato. Che poi secondo me è anche un po' il discorso con Bayonetta, che è un gioco che veramente o si adora o si disprezza pesantemente. Perché pure lì non ho sentito mezzi termini, soltanto il gioco della vita o il gioco più brutto del mondo. Sì, è vero, vero. Questo è vero, ma secondo me in Bayonetta... cioè, per esempio, io sono uno di quelli che non si è avvicinato a Bayonetta per il design del proprio di tutto. Insomma, non mi attirava proprio. No, ma allora lei. Cioè, mi sembra un po' troppo tutto. Il design, penso quello. Scusa. Cioè, un po' troppo tutto. Cioè, io preferisco God of War come una cosa epica, mitica, sì, che è la solita giapponesata con la... Insomma, boh, però però una giapponesata comunque particolare, nel suo essere giapponesata, perché anch'io non sono un amante di quel tipo di giapponesate, però si gioca veramente bene. No, no, che poi come metodo di gioco sia una figata, perché è precisissimo, perché... quello lo capisco, non è proprio il mio genere. Quello di... anche i Devil May Cry li ho apprezzati, soprattutto il primo e il terzo, però non sono il tipo che va a fare il perfect con le mosse chissà cosa, cioè... Ma se neanche io mi ci sono divertito un sacco, pur non essendo uno che impazzisce, esatto, per fare la combo super figa. Esatto. Boh, allora lo proverò prima o poi. Ma quando... sì, dagli una chance. Okay. Prima che chiudi l'argomento, passi oltre, non so se volevi passare oltre. Volevo chiederti invece il discorso di Alan Wake, perché io non l'ho citato, io anche l'ho apprezzato, sì, però non ho giocato i DLC, io purtroppo non mi è ancora capitato. Fallo. Sono tutti quanti, è meglio di mille volte meglio del gioco. Però il gioco in sé, cioè veramente lo reputate fra i giochi stati più interessanti che ci sono stati più interessanti di quest'anno, Alan Wake, proprio. Cioè, è piacevole. Secondo me delle deficienze veramente grosse. No, ma io sono d'accordo, eh. Cioè, a livello di gioco, ma più che deficienze, il problema è che fai la stessa roba per 7 ore. Per mille volte. Sì. Mille volte, e con dei tempi anche spesso un po' troppo dilatati. Però il fatto è che a me piace un sacco l'aspetto narrativo dei giochi, e secondo me Alan Wake fa un sacco di cose belle sotto questo punto di vista, e quindi alla fine mi ha comunque acchiappato. Sì, sono d'accordo, perché io lo trovo un gioco con un casino di difetti, anche a livello grafico, a livello proprio di gameplay, nel senso che, come non mi ricordo più dove l'ho detto, forse nel podcast 100, che tu hai una pietra e ci puoi saltare sopra, quella di fianco che è un millimetro più alta non ci puoi saltare sopra perché non ci devi andare, cioè il gioco non prevede che tu ci vada lì, quindi ha un sacco di muri invisibili, ha un sacco di difetti di questo tipo, però anche a me proprio la trama, cioè io volevo vedere cosa succedeva dopo. Cioè, io quando ho finito il primo capitolo ho sentito la canzone anni 60, cioè sono rimasto sconvolto. Ho detto, mica la fighissimo, è la cosa più bella che abbia mai giocato. Cioè, mi ha proprio preso. Come mi ha preso anche i Viren è un gioco che se gli vuoi trovare difetti stai tutta la vita a trovarglieli. Però è un gioco che mi ha proprio preso dal lato narrativo. Sarà... punto, che è col bambino piccolo, questo rapiscono il figlio, il tossico io gli ho sparato in testa in un secondo, non ho avuto neanche il momento di pensarci, pum! Quindi boh, però sì, il lato narrativo di Alan Wake mi ha proprio preso, e poi i DLC sono stati fantastici. Sì, i DLC sono davvero belli entrambi, tra l'altro il primo DLC è proprio bello da giocare, molto più di Alan Wake il gioco, c'è più varietà, fai più cose, e il secondo invece è molto figo proprio da questo punto di vista di le cose che fa per raccontarti quello che ti vuole raccontare, belli. Comunque io volevo dire... mentre parlavi mi sono venute in mente due cose, una su Alan Wake e una su Heavy Rain. Su Alan Wake io non lo posso confermare perché non l'ho fatto, però in molti mi hanno detto che giocandolo a livello di difficoltà più alto è molto più piacevole, più appassionante, perché è bilanciato bene e ti tiene costantemente sulla corda. Lo dico per sentito dire, non lo so. Mentre su Heavy Rain, e questo è più un messaggio per Pecora, anche secondo me David Cage scrive male, eppure Heavy Rain mi è piaciuto, ma non perché sia scritto particolarmente bene, mi è piaciuto proprio per questo discorso qua di vedere le cose che fa per raccontarti, il modo in cui ti fa raccontare a te la storia, interagire, ci sono un sacco di cosette sfiziose, criticabilissime, ma mi è piaciuto proprio per quello. È nella lista dei giochi che dovrei riuscire a giocare prima della nascita del bimbo. Ma è una lista abbastanza lunga, capisco il problema, ma l'intenzione di giocarlo c'è. L'unica cosa non giocarlo col Move, perché io ho comprato il Move. No, per... no. Ma proprio una merda, ma una cosa sì, fuori si da fa ragazza. Cagare. Mamma mia, ma come hanno fatto? No, no, ma già la concezione che ha David Cage di come sia divertente far muovere un personaggio mi aveva indisposto in Fahrenheit. Se poi gli dai il Move, io posso tanto pensare cosa gli sarà venuto in mente. Perché io pensavo che fosse una, cioè avesse implementato un metodo molto più, come dire, naturale, no? Tu sposti il braccio e lo cioè fai una mossa verso l'esterno. No, è tutto con cioè è come se ti dessero un joypad che tu non hai mai usato, una nuova concezione di joypad, devi impararti a memoria tutte le cose. Cioè, e come non solo come se non l'hai mai usato e te lo fanno usare in modi anti allucinanti. Esatto, sì, sì, è sì, quello sì. Che è quella la cosa che mi diede più noia in Fahrenheit, che ho giocato su PC. C'erano delle movenze da fare col mouse che non ci impigliavano nulla, proprio sì, zero di quello che il personaggio poi avrebbe fatto a schermo. No, il vantaggio, no, il vantaggio del joypad su Heavy Rain è che comunque tu associ i tasti, quindi insomma è abbastanza ben implementata la cosa. Col Move è veramente allucinante. Poi secondo me la cosa gravissima col Move, che mi è capitato di dire un sacco di volte, perché io l'avevo provato tantissimo nelle varie fiere, perché comunque a me Heavy Rain pure è piaciuto tantissimo, è che col Move ti manca anche il feedback a capire cosa sbagli del movimento, perché non capisci mai se lo stai sbagliando perché stai girando troppo, troppo poco, cioè non ti manca quella cosa. Mentre il tasto dice premi X e capisci se sì, premi X, là non capisci mai perché sbagli. C'è anche una specie di vibrazione che ti indica. No, no, perché lui ti dice, che ne so, muovi verso destra, tu non lo fai il movimento, lui dice che hai sbagliato, ma tu non sai se è perché magari è mosso troppo tardi, troppo presto, troppo verso destra o troppo poco verso destra. Ti manca quel... No, sembra stupido. No, no, ma è vero. No, e no, la cosa che mi fa incazzare è che loro hanno detto, poi non si sa se è vero, che hanno stoppato la produzione dei DLC. Sì, sì, sì, il detto. Primo era bellissimo, secondo me, il Tassidermista, era veramente bello. Oh, sì, cioè, mi sono divertito un sacco. Cioè, non raccontavo un cazzo, però era divertente vedere tutte le cose che potevi fare. Esatto, per implementare il Move, che veramente è una vita. Ma fra l'altro, io non l'ho provato col Move, ma da quello che mi dite è folle, perché poi si applica a un gioco che già in partenza non ti dice cosa succederà quando premi il tasto. E tante volte tu sei lì, sì, oddio, tipo la scena della pistola, oddio, aspetta, se premo gli sparo o mi muovo? No, ma ti faccio un esempio. Tu apri una prima scena di Viren, tu vai a prendere i vestiti nell'armadio, tu cosa fai? Prendi la porta dell'armadio e la tiri indietro? No, tu devi spingere in avanti, ma proprio spingere in avanti tanto, e poi tirare indietro. Ma perché? Cioè, non ti... Poi tu devi tenere in orizzontale. Allora, se c'è un'icona con solo la palletta, devi tenere in orizzontale, sì, sì, Move. Se c'è l'icona con la palletta e obliquo, devi tenere un obliquo. Cioè, diventi è come dare un joypad la prima volta a una persona e dire, toh, finisci il gioco subito. Ma forse David Cage nella vita lui proprio si muove così, e quindi... Ha le maniglie al contrario, se sta roba qui. Per camminare, lui cammina sempre dito, c'è qualcuno che lo gira. Va bene, io direi che possiamo chiudere qua l'argomento. Scusa, no, volevo solo aggiungere una roba che non l'ho citato prima, perché vabbè, mi sembra assurdo metterlo nei giochi dell'anno. Però l'NBA 2K di quest'anno è una roba veramente fuori dal mondo. Punto. L'ho sentito, l'ho letto in molti posti questo. E senza grossi rivali, tra l'altro. Tra l'altro, sì. Cioè, l'anno in cui non hanno la concorrenza hanno fatto un gioco insensato. Poi soprattutto se sei uno che ama il basket da tanto tempo e c'hai un po' la passione Michael Jordan, così, giocare le partite vecchie ricreate che tu controlli i Bulls, ma ogni singolo giocatore delle squadre avversarie si comporta come quello vero, la telecronaca fatta come se fosse stata fatta all'epoca, è allucinante. Tu sai dove ho giocato io NBA 2K per ben 30 minuti gratis? Su OnLive. Ebbene sì, funziona. È c'è un lag della Madonna, d'altronde sono in Italia e quegli server stanno negli Stati Uniti, ma io quando l'ho fatto partire sono rimasto a bocca aperta, perché ho giocato, si può giocare mezz'ora gratis di ogni gioco. Assassin's Creed 2, Mafia 2, NBA 2K... Virtua Tennis l'ho giocato col joypad del 360 e funziona veramente. Io pensavo non lo mettessero mai in produzione, invece funziona. Ed è... Sì, ho provato Splinter Cell Convictions. Beh, ora magari Splinter Cell non è troppo demanding, ma comunque senza particolarmente nessun lag. Sì, Non ci speravo, sinceramente. Questa, pensavo avrebbe fallito, magari purtroppo fallerà miseramente lo stesso, però noi non avrei dato un soldo bucato. E invece funziona, davvero, funziona. È la prima, come la prima volta che ho girato lui, vedevo la manina che girava e andava col dito in giù, dicevo, cazzo, funziona veramente, è la stessa scena. Poi tecnologicamente un po' più avanzata la cosa, però insomma. Pensa che figata sommare i lag e tipo giocare con Kinect un gioco online in multiplayer su OnLive. Mamma mia. Un gioco di David Cage, tra parentesi. Mamma mia, David Cage con Kinect, aiuto. Allora, parliamo di qualche settimana fa Game Informer ha pubblicato le prime immagini della nuova Lara Croft e si preannuncia un reboot della serie. Ora, la nuova Lara Croft è veramente, cioè l'hanno fatta leggermente sexy, 21enne, tutta sporca, tutta con la faccia incazzata, un po' Angelina Jolie, un po' Jessica Alba, e ci vuole un reboot di Tomb Raider, dopo Uncharted, dopo, insomma, che il genere si è evoluto parecchio, secondo voi c'è ancora spazio per Lara? Per me sì, e lo aspetto anche a braccia aperte. Vuoi per una questione nostalgica, perché comunque il primo e il secondo quando uscirono ci giocai allo svenimento, e perché sono comunque curioso di a me Crystal Dynamics come studio mi piace tanto. Sfornarono il primo Legacy of Kain che davvero mi piacque tantissimo, proprio quello in stile un po' Diablo con la visuale dall'alto. Sì. E quindi mi voglio un bene dell'anima, che magari poi non ci sarà neanche più nessuno del team originale di Legacy of Kain. Comunque, come studio mi piace, gli voglio un sacco di bene. E è vero che hanno comunque dovuto fare un primo reboot a suo tempo con Legend. Però sarei curioso di sapere il retroscena di quest'altro reboot, perché se fosse un reboot in cui finalmente allo studio gli danno carta bianca, allora io davvero a braccia aperte, perché comunque se mi hanno sfornato un gioco come Legacy of Kain, e anche quello in 3D comunque, che in 3D erano molto carini, sì, sì. Che sì. Io sinceramente aspetto ancora un sequel a un certo punto, perché l'hanno lasciato un po' così, e era una storia abbastanza interessante. Se gli danno, se appunto ci fossero meno pressione, o comunque finalmente si fossero reso conto che il vecchio modello di Lara Croft non importa quanto lo ributti così com'era, non poteva più funzionare. Se gli hanno dato carta bianca, io ci spero davvero tanto. Ora, da quei scan che ho visto su Game Informer, non si vede granché, insomma. Tranne una figa pazzesca, finta. Esatto. Guarda che è un po' illegale per te, Davide, occhio. C'ha 21 anni, cosa volete da me? Però sì, mi piace l'idea di pensare che gli abbiano dato, ok ragazzi, vi siete fatti un paiolo tanto in questi anni con le nostre direttive, adesso ve la lasciamo in mano a voi, Lara, e ci fate un po' quello che vi pare. Povera! Ma tra l'altro le hanno ridotto le poppe, o sbaglio? Di gran lunga, l'hanno fatta molto più realistica. Sì, ben venga, davvero. Sì, sì. No, perché così notavo questa cosa. No, hanno fatto una ragazza normale, diciamo, insomma. No, una figa è incredibile, diciamo. Ha fatto una figa normale. Il character design, secondo me, è eccezionale proprio. Cioè, hanno trovato veramente un personaggio eccellente da questo punto di vista. Cioè, io già che ci sto, entro pure con forza nel discorso. Vai. No, dicevo, io assolutamente come Paolo l'aspetto a braccia apertissime, perché ci credo tantissimo in un reboot. Soprattutto sono un convinto sostenitore che è meglio un reboot di una serie piuttosto dell'ennesimo sequel, soprattutto visto il crollo proprio inesorabile che ha avuto la serie. Poi l'ultimo, non mi ricordo se era Underworld o come si chiamava, che era veramente terrificante. E quindi no, ci credo tantissimo. E tra l'altro, per rispondere alla tua domanda, secondo me di spazio ce n'è in abbondanza, perché anche semplicemente se mi facessero il super clone di Uncharted con lei come protagonista, con una bellissima storia, secondo me di spazio ce n'è molto, perché comunque lo stesso Uncharted fa fatica oggi ad avere un concorrente degno di nota, perché era il vecchio Tomb Raider fondamentalmente. Sì, poi Uncharted è comunque monopiattaforma, questo sarebbe dappertutto, quindi sì, è vero, cioè lo spazio c'è. Ma poi hai menzionato una cosa importante per quanto mi riguarda, che è la storia, che ovviamente quella di Tomb Raider, la storia non è mai stata poi così tanto importante, però se la dai in mano a un team come Crystal Dynamics, senza delle direttive forti da parte del publisher o chi sia, del producer, se hanno ancora gli scrittori dei tempi di Legacy of Kain, secondo me può uscire qualcosa di davvero interessante, a livello narrativo proprio. Legacy of Kain aveva delle cutscenes vere e proprie, e comunque era comunque un gioco per certi aspetti simile a Tomb Raider, che aveva comunque fasi esplorative anche lui. Ma magari riescono a fare un Tomb Raider in cui sono divertenti i combattimenti. E quello sarebbe anche una grande vittoria. Ma d'altronde dopo Uncharted secondo me copieranno un po' tutti quel metodo lì, perché e dopo Gears of War, cioè insomma dopo l'evoluzione della terza persona sicuramente non puoi rimanere alle sparatorie dei vecchi Tomb Raider, sarebbe veramente anacronistico. Sì, però se mi fai un Tomb Raider in cui ti metti lì, copertura, mi alzo, sparo, stai veramente stuprando Tomb Raider. Un'altra cosa di cui parlavano i rumors era che volevo fare un free roam. Che se fai un free roam i combattimenti, ahimè, non so quanto possono essere raffinati, ecco. Però un free roam secondo me ci starebbe assai con Tomb Raider, perché una delle cose che mi fa alzare tu la dici? Ma no, non con lo spirito necessariamente con come è stata la serie fino adesso, però con l'idea che lei comunque è un'esploratrice che va a ravanare nelle tombe a cercare le cose, effettivamente avere un ambiente libero da esplorare nel contesto ci sta, poi è chiaro che dipende anche da come lo fai. E devi dare molta, molta importanza alla fase di esplorazione, alla narrativa. Insomma, sì, però devi cambiare proprio. Ve lo ricordate Soul River, quello sullo PS1? Sì, certo. Quello in un certo aspetto era un free roaming, però aveva la tattica che a me piace tantissimo quando si tratta di game design, che è quella che l'area è già aperta, puoi andare da tutte le parti, se non che non hai le abilità giuste per arrivare dappertutto. Soul River funzionava così ed era in un certo aspetto free roaming. E anche Zelda funziona così. Scusa, io Zelda purtroppo non... qui mi ammazzate voi, non ho mai giocato. Soul River sì, e sulla carta potrebbe passare per un free roaming. Quindi un po' di esperienza ce l'hanno già. Beh, fra l'altro uno Zelda Rider. Anche Zelda ha bisogno di tanti di quelle svecchiamenti, altro che rimuovere. Mamma mia. Ma il prossimo con Wii Motion Plus sarà una figata pazzesca. Vaffanculo. Sono terrorizzato da sta cosa. Mamma, già l'ultimo, quello che ho preso il day one col Wii, ce l'ho ancora lì che devo finire. E Twilight Princess. Porca troia. Il gioco più noioso del mondo. Proprio. Mamma mia, ma proprio noiosissimo. Ed ero esaltatissimo, cioè io veramente sono andato al day one, eravamo in due, guardandoci malissimo, dicendo tu l'hai prenotato? No, neanch'io. E ce l'hanno date a Caterve, quante ne volete? Ed è rimasto lì, sono penso a metà gioco, proprio non lo finirò mai, lo tengo così per... È molto longevo comunque, sì, durante 4 anni. Bene, bene, quindi c'è bisogno di un altro Tomb Raider, soprattutto con la ragnocca, insomma, diciamolo. Sì, veramente. Sì, sì. Bene, bene. E allora veniamo a questo punto all'ultimo, come dire, punto, perché la parte, insomma, della console Apple possiamo anche evitarcela, visto che ho capito che è una stronzata. Nel 2010 ricorrono i 25 anni di uno dei miei film, forse sicuramente di fantascienza, il mio film di fantascienza preferito, ovvero Ritorno al Futuro. E per l'occasione Telltale Game pubblicherà, penso a giorni, anche se non hanno dato una data, la prima delle 5 o 6 parti di una serie di avventure su appunto Ritorno al Futuro, che è ambientata, questa serie di avventure, nel 1986, ovvero un anno dopo tutto quello che capita nella serie di film. Allora, prima di tutto, voi siete dei fan del film o non ve ne frega un cazzo? Fan, soprattutto del primo e del secondo, un po' meno del terzo. No, in realtà anche il terzo sì, lo metto proprio quasi a pari merito con gli altri, che comunque, beh, che io c'ho un debole per il Far West, quindi quello va bene. No, comunque contentissimo del gioco, e soprattutto perché, a differenza di altri tie-ins, hanno avuto l'idea appunto di non calcare la storia, ma fare una storia separata. Come a suo tempo uno dei miei giochi preferiti fu Blade Runner, che non riprendeva gli episodi del film. Che bello che era! Mamma mia! Era una cosa bellissima, ma la Westwood Studios, mi sembra si chiamasse. Westwood, sì. Brillante idea di farsi un mazzo tanto così, ma di prendere un sacco di spunti dal libro stesso e di fare una cosa separata. Ed è, cioè io me lo c'ho ancora la pelle d'oca se ripenso a quel gioco, perché funzionò su tutti, per quanto riguarda su tutti i livelli. Quindi questa idea di, ora magari purtroppo non sarà così bello, aspetto di vederlo, comunque l'idea di basare un gioco su Ritorno al Futuro, ma non calcare il primo, il secondo, il terzo film, ma anche un anno o 5 anni dopo quello che è, mi ispira abbastanza, mi sembra già un chiaro indicazione che non si sono, cioè, ma ci sono un po' sbattuti, ecco. E tu Pierpaolo che dici? Io, diciamo, un fan medio, più che altro un fan per empatia. Avevo la ex donna che era una iper amante di Ritorno al Futuro, della trilogia. Tra l'altro dovrei avere anche ancora il cofanetto suo qui dietro nella videoteca, è rimasto, diciamo, non è una cosa simpaticissima da dire, però dovrei avere, diciamo, sicuramente bellissimo il primo, ho apprezzato molto il secondo, il terzo non più di tanto, però non sono uno di quei, di proprio dei grandissimi estimatori della trilogia, ecco, per intenderci. Cioè, mi piace, ma non è che mi strappo, vabbè, non posso di capire, tanto già non ce li ho, quindi non è che impazzisco. Però bella l'idea di Telltale. E tra l'altro del gioco, la cosa, se vogliamo, confortante è che ci sta lavorando lo sceneggiatore dei film originali e che tra l'altro dice che ci vuole infilare dentro un po' di idee che avevano avuto lui e Zemeckis per i film e non hanno usato, quindi anche sotto questo punto di vista. Non potevano, sì. Sì, decisamente un'ottima cosa. Diciamo che stupidamente sono di Telltale, che sicuramente l'idea è eccezionale, mi piace che si espandono in questo modo loro, che comunque dimostrano un bel po' di verve, però sono forse un po' più attento di più, sono più appassionato all'altro, a Jurassic Park, che faranno prima o poi anche quello. E no, tra i due invece proprio Ritorno al Futuro a nastro, anche perché io non avevo la donna che guardava Ritorno al Futuro, ma a causa, ma anni fa, quando insomma la TV era ancora in bianco e nero, non è vero, a causa di una donna che mi ha scaricato malissimo, io per un mese intero, era un gennaio, non mi ricordo di che anno, tutti i pomeriggi mi sono visto Ritorno al Futuro, un po' come... Pensavo che cercassi di tornare indietro nel tempo. No, per carità, meglio lasciar perdere. E peraltro, in Ritorno al Futuro parte seconda c'è una cosa molto carina con Marty che va nel bar anni 80 e gioca a Gunsmoke, credo, quello della Nintendo con la pistola, che e il bambino gli dice: ah, ma è un gioco, si devono usare le mani, che schifo. E mi ha fatto venire in mente il Kinect. Cazzo, un precursore quel film, veramente, ci hanno azzeccato troppo. Peraltro le previsioni del tempo sono esattissime nel film e anche oggi come oggi funzionano molto meglio di anni fa, secondo me. Mancano le macchine volanti, d'altronde il secondo è ambientato nel 2015, quindi per insomma in 5 anni però non credo che ancora nessuno indossi i jeans all'incontrario. Ma su questo ho provato con le magliette, ma la mia ragazza mi schiaffeggia tutte le volte che provo a uscire di casa con la maglietta. Però le maniche lunghe, oltre le mani, ci sono. Sì. Cioè, no, io sono molto divertito da questo, cioè, nel senso, aspetto con molta ansia il gioco, che è già in pre-order a $29, mi pare, sul sito di Telltale. Non ho capito. Tutti e cinque gli episodi. Ah, ecco, no? Tutti e cinque. Tutti e cinque insieme. Cioè, tu compri la botta e poi sì. Sulla fiducia. Esatto. Sì, sulla fiducia, esatto. E boh, so che il doppiatore di Doc Emmett Brown è proprio Christopher Lloyd, mentre purtroppo il nostro buon Michael J. Fox non doppia Marty McFly, ma c'è un tizio che lo imita. Vero. E purtroppo. Bene, mi sembra anche abbastanza bene, per quanto ho potuto sentire. Sì. Poi sì, magari, magari in Italia va anche bene, se riescono a trovare il doppiatore. No, ma non so se Telltale localizza i giochi, però se lo facessero... Già tradurli con i sottotitoli bisogna aspettare. Insomma, Monkey Island ci ha messo una vita, no? Tradurre o non li hanno mai tradotti? Con i sottotitoli? Non lo so. Perfetto. Speravo che se la tendenza è quella, allora forse no. No, difatti molti si lamentano che loro localizzano pochissimo e se solo si affidassero a qualche studio minore, insomma, c'è un sacco di gente nei forum che si lamenta della cosa. No, non vorrei dire una cretinata, ma Telltale per oggi non ha mai localizzato lei, fece i Sam & Max in italiano, ma li fece Atari, se non ricordo male, e i Tales of Monkey Island fu fatto un progetto amatoriale. È per quello che si lamentano tanto nei forum, allora. Su questo. Esatto, sia Strong Bad che l'altro, che non mi ricordo qual è, sono rimasti in inglese. Perfetto, quindi anche qua avremo pochissime speranze di vederlo. Ma, oddio, magari qui la licenza è più grossa, quindi magari fanno la versione italiana, però non ci metterei la mano sul fuoco. Sì, però può anche... essere, magari ci sono più investimenti sia qua che su Jurassic Park. Sì, beh, comunque sono franchise molto importanti, quindi magari anche gli stessi, come dire, proprietari del marchio spingono per avere una versione locale. Infatti. E ne approfitto per fare un po' di pubblicità a un progetto che insomma, mi piace molto e di cui il tentacolo, insomma, è supporter, ovvero... Che ovviamente Game Patrol. Che è Game Patrol, sicuramente. Di cui è uscito ormai qualche... insomma, qualche settimana fa l'episodio 2. Esatto, che hanno visto in meno persone rispetto al primo, che già erano poche persone. Però io l'ho visto, io l'ho visto. Grazie mille. Bisogna parlarne di più di questa sitcom italiana così bella, scritta bene. No, allora, aspetta, forse non stiamo parlando della stessa cosa. Io mi scuso per aver sabotato in questo modo il tuo discorso, che sicuramente non avresti parlato di Game Patrol, immagino. Però sì, cliccate, andate su YouTube, guardatevi Game Patrol. La prima, sì, tra l'altro, la vera, che io sappia, la vera prima sitcom italiana sui videogiochi, non quella del signor GameSpot. Che comunque sì, è il primo episodio, primo episodio di Game Patrol è uscito prima di Gamers, non mi ricordo. Sì, credo. Comunque, comunque ho visto Gamers e alcuni episodi non sono male, lo ammetto. Non l'ho mai visto, ma seguo assiduamente Game Patrol. Grazie. Però volevo parlare di un altro progetto, anche di un altro progetto, ovvero di Players, che è una rivista in PDF che si può reperire a playersmagazine.it, dove scrive peraltro il nostro Andrea Maderna, oltretutto. Sì. Ed è una rivista che parla principalmente di videogiochi, ma anche di altre sfaccettature dell'entertainment, ovvero musica, cinema e altre amenità varie, una fatta molto molto bene, a mio avviso, almeno il numero zero è online, è di ottima fattura, e niente, dateci un'occhiata, playersmagazine.it, e... Bella. Sottolineo che non l'abbiamo pagato, anche perché non ci abbiamo soldi, e quindi... Io? A me? Sì. No, ma a me fa piacere sempre, come dire, portare avanti i progetti in cui credo, Cribbio. Forse oggi non era il giorno migliore per fare l'imitazione. No, infatti. No, comunque, bello, leggetelo, perché, insomma, a me è piaciuto. E quindi io passerei a questo punto... Andiamo a vedere la scaletta, che ho cancellato perché ho aperto la pagina di Players Magazine, con i giochi giocati. Ragazzi, allora, partiamo dall'ospite che non passa da un anno da queste parti. Caro Pierpaolo, hai un gioco che ti ha ispirato particolarmente ultimamente? che proprio mi ha esaltato. No, diciamo che c'è stato questo problema del gioco dell'anno che ci ha fatto passare in due settimane 37 giochi sotto la... Io lo dicevo anche nell'altro, nel nostro podcast, che comunque mi è ripresa pesantemente la scimmia di World of Warcraft in concomitanza all'uscita di Cataclysm, quindi eviterei veramente di disturbarvi e rompervi il cazzo su questo fronte. La trovo un'espansione eccezionale, cioè bello. Perché sei andato via con la voce, stiamo parlando ovviamente di World of Warcraft Cataclysm. Sì. Perché sì, esatto. World of Warcraft ce lo siamo perso, abbiamo sentito solo Cataclysm. Perdonate, sì, World of Warcraft Cataclysm. Quando ha parlato di scimmia comunque si era capito, insomma. Sì, beh, ovvio. Diciamo questo, perché poi di recente ho iniziato... che mi sono trascinato un po' più di ora era stato il discorso di Halo Reach, ma l'ho detto abbastanza quello che ne penso, quindi non sarebbe impietoso discuterne anche qui. E poi Brotherhood, Assassin's Creed Brotherhood, che proprio bello, corposo, comunque ho apprezzato tantissimo la scelta di fare questa sorta di sequel così lineare con il 2, proprio senza soluzione di continuità, mi è piaciuto molto, però il grosso non sarò neanche a metà di gioco, quindi anche in quel caso non vorrei esprimermi eccessivamente. Ma è un altro gioco da 80 ore, anche questo? Cioè enorme. Sì. È veramente corposo, è fatto meglio sotto ogni punto di vista. È un po' come il discorso, personalmente, un po' come il discorso di Bioshock 2, che diceva prima Andrea. Cioè Bioshock 2 l'ho trovato a livello di gameplay spicciolo più bello di Bioshock 1, se non fosse che Bioshock 2 sapeva tutto di già visto, ovviamente. Ecco, Assassin's Creed Brotherhood secondo me segue quello stile, cioè a livello di gameplay spicciolo è sotto ogni punto di vista più bello di Assassin's Creed 2, però subisce un po' diciamo una mancanza di novità a livello di... Sì, ok, c'è Roma invece che Firenze, però non è che Non è che senti la gente in giro che parla in romanaccio, comunque cioè, non è che c'è questo stacco forte, che, cioè, ci sono i monumenti, stop. Per il resto il gioco è quello, quindi non ha tanto l'elemento di innovazione, però gameplay puro è più bello sicuramente. Beh, d'altronde anche un gioco così enorme a un solo anno di distanza dal prequel, non poteva che essere molto simile dal punto di vista strutturale, diciamo. Assolutamente. 2033 Io mi così. fermerei No, qui. dimmi, scusa. No, io mi Paolo, Dimmi. hai finito 2033, Ho quindi. finalmente finito 2033 e a livello hard, vorrei precisare che non è che faccio così schifo da non riuscire a finire, no, l'ho giocato a livello hard, tipo 5 minuti a notte. è giusto per la precisione, devo ammettere che alla fine ho rimesso l'audio in inglese, invece che in russo, puro russo. Non sono più un purista, Andrea, mi dispiace. Dispiace. No, i sottotitoli in un first person shooter non riesco. No, vabbè, è normale, dai. Mi muoio un po' dentro È a doverlo incredibile. ammettere, però effettivamente Muori non anche ce l'ho. nel gioco perché stai leggendo i sottotitoli, tra E l'altro. anche quello. E tutto sommato, nonostante l'abbia dovuto eleggere a gioco dell'anno perché era l'unico che avessi giocato, è un gioco che raccomando perché comunque sulla carta rappresentava esattamente il tipo di gioco perfetto per me. Cioè che c'era una forte componente narrativa, una forte atmosfera e comunque il first person shooter. Che a me non dispiace. Purtroppo non tutti questi elementi, come in chimica, una volta messi assieme, hanno funzionato come avrebbero dovuto. Mi rimpiango più che altro di non averlo giocato su PC, ma l'ho giocato su 360 perché a quanto pare su PC, se c'è un PC abbastanza considerevole, la grafica, insomma, Incredibile. esatto. Quindi l'atmosfera, che era uno dei componenti a cui ci tenevo di più, avrebbe sicuramente ne avrebbe comunque giovato. Però, tutto sommato, soprattutto per un finale abbastanza ancora più atmosferico dell'inizio, l'ho apprezzato, ecco. Però resta comunque, secondo me, un mezzo esperimento fallito tra trovare il giusto bilanciamento fra narrativa e azione. Cioè, se te prendi, per esempio, Half-Life 2, gli dà le piste proprio. Cioè, proprio piango, però sì, Valve, è bravissima a trovare questo equilibrio. Che questi russi, che non so, ora non ho capito se sono gli stessi Stalker o comunque no, però questi russi purtroppo non hanno raggiunto il bilanciamento giusto ancora. Se fanno un seguito lo compro perché comunque hanno dimostrato alcuni spunti intelligenti, anche nelle soluzioni tipo alcuni set pieces che ci sono. Perché comunque è un corridor shooter, comunque, cioè vai sempre a dritto, in pratica, non è che puoi. Però alcune soluzioni che hanno trovato per tenerti su interesse alto e comunque non farti abbandonare il pad, alcune sono abbastanza intelligenti, come anche l'utilizzo della maschera da gas, che comunque aumenta tantissimo, il senso di claustrofobia. Quindi se fanno un seguito, spero, tra l'altro mi sembra che l'avessero annunciato qualche mese fa, sono in prima linea, ecco. Vorrei ricordare che uno di noi quattro pensa che Half-Life 2 sia troppo lungo e dovevano tagliare dei pezzi. Quello, tra l'altro concordo. Chissà a chi ti riferisci. È il modo in cui ti introducono la narrativa. Sì, no, scherzavo, era per, insomma, aizzare Pierpaolo su questa cosa. Ma mi sa che sei l'unico a tu a non pensarlo, forse. Voi siete dei miscredenti, non avete la No, no. fede. Half-Life 2 è lungo, Davide. Sì, lo so che è lungo. Poi ti assicuro Half-Life che. 2 ha i pezzi morti, Half-Life 2, quel problema lì ha dei pezzi. Doveva durare 20 ore in meno, 10 ore in meno. Dei pezzi tiratissimi. Ma non dura 20 ore in tutto il gioco. Ti fa apprezzare di più anche gli episodi successivi, però. 25. Questo è vero, sì, è Gli vero, episodi successivi sono come bilanciamento anche meglio, volendo. Sì, però non è che è un pregio se un gioco, essendo troppo lungo, ti fa apprezzare di più quelli corti. Alan Wake dicevi appunto che gli episodi più corti di DLC erano meglio. Sì, ma non è che lo dico come complimento ad Alan Wake, lo dico come complimento agli Sì. essi. In effetti, Ah, e tu Andrea, cosa ci giochi questo mese? Io non so quanto possa essere interessante, ti ho detto che ho da poco finito Crisis Warhead. Cioè, dato, No, dillo vabbè, tanto. può aver senso parlarne, visto che abbiamo parlato di Crisis qua. Tra l'altro, Esatto. quando c'era Umberto di multiplayer, e tutto questo mi fa capire che io e lui non andiamo molto d'accordo, perché lui mi ha detto, ah, Warhead è molto più bello, e invece a me è piaciuto molto di più Crisis. Boh, non so, cioè nel senso, Crisis World mi è sembrato, e magari è proprio questo, che han detto, ok, avete rotto le palle, adesso vi facciamo vedere che siamo capaci di fare anche noi lo sparatutto dritto, vai avanti, è scriptato, è pieno di mostri, cose grosse, e non devi pensare se andare a destra o a sinistra. Che è invece a me Crysis era piaciuto proprio per quella sensazione, in parte sicuramente posticcia, di libertà che ti dava. Invece Warred, bello, divertente, ma anche migliorata l'intelligenza artificiale, c'ha un 2-3 momenti molto spettacolari, però non lo so, mi ha deluso sotto questo punto di vista. E fra l'altro il fatto è che tu giochi la stessa storia dal punto di vista di un altro personaggio, e quindi è proprio evidente, sto giocando la stessa roba in una maniera più stronza, completamente diversa. No, proprio più stronza. Boh, non lo so, mi ha dato proprio questa impressione di Crysis, la versione per quelli che non sanno giocare a Crysis. Che cattiveria. Sarà contento Umberto di sapere queste cose. No, però devo dire la verità, anch'io ho preferito Warhead al primo. Vabbè. Crysis, però. Cioè, forse la soluzione più lineare, cioè Crysis secondo me si perdeva pure quello in tanti tempi morti, dovuti al fatto dell'estrema libertà, ci mancherebbe. Cioè Crysis 1 non ha la storia, cioè questo problema qui, secondo me, come il primo Far Cry, non hanno la storia. Cioè, secondo me Warhead ha almeno un'idea di narrativa, e secondo me questo lo rende più piacevole nel giocarlo. Sicuramente Crysis è uno shooter un po' più vecchio stile, dove veramente sceglievi cosa fare, invece Warhead non lo è più. Ma infatti il problema è quello, cioè dipende da quale approccio ti piace. A me, essendomi piaciuto così tanto Crysis, è evidente che non mi può piacere allo stesso modo Warhead, perché proprio va in un'altra direzione. Sì, qui è pieno di paletti Warhead, che invece Crysis non ha. Infatti. E quindi non ti piacerà Crysis 2, che probabilmente sarà un palo unico, vista... nel culo, probabilmente. No, che sarà molto più guidato. C'ho un po' sto timore. Sì. Quella scena che avevamo fatto vedere, mi sembra a Los Angeles, dicendo guardate che figata qua, che c'è la macchina, puoi tirarle un calcio, la butti giù, interazione. Sì, ho capito, però era proprio nel momento in cui passo su questo ponte, dove incidentalmente c'è una macchina messa sul bordo, dove è rotto il guardrail, guarda caso in quel momento passa sotto un mostro gigante, gli posso tirare un calcio. Cioè... È una coincidenza, anche te, veramente. Bene, io invece ho comprato al giorno che è uscito, dopo anni che gli tiravo bestemmie, dentro Gran Turismo 5. Oddio. E allora, che dire, è un gioco dopo 5 anni di sviluppo altamente raffazzonato, perché si vede chiaramente che Sony ha puntato una pistola in testa a Yamauchi e ha detto o lo fai uscire o ti faccio fuori la famiglia. E, però, i lati negativi sono molti. In primis il fatto che non puoi sbandierare 1031 macchine quando 800 macchine sono praticamente Gran Turismo 4 in pseudo alta definizione, e non puoi sbandierare danni che stanno implementando patch su patch, e non puoi sbandierare una grafica giga della Madonna in tutti i casi, dove ci sono ombre che sfarfallano, come si chiama quando lo schermo si divide in due, che non mi ricordo mai, il tearing. Tearing. Esatto. Tearing. Esattamente. Pensavo dicessi lo split screen. No. Non c'è lo split screen. Però c'è il tearing. Se tu ti muovi molto veloce diventa uno split screen. No, di suo che l'online, dopo 2 giorni che era inutilizzabile, l'hanno patchato in maniera, secondo me, nel senso, buona, e si gioca tranquillamente. E la cosa bella di Gran Turismo comunque è che il modello di guida è, a mio avviso, a me piace. Io ho giocato tantissimo al primo, tanto al terzo, e qua si vede che comunque è il modello di guida di Gran Turismo molto migliorato, quel modello di guida che ti permette, se ci giochi un po', di ritrovarti a fare i giri veloci limando il centesimo di secondo su centesimo di secondo, che poi è la cosa figa di un gioco di guida. Insomma, a me di avere effetti della Madonna non interessa, mi interessa divertirmi guidando. E quando tu sei online con altre 12 persone, che sei in scia a Laguna Seca, soprattutto con gente che non ti sbatte fuori, ed esci dalla scia per fare la staccata, cioè ti emozioni, secondo me è veramente divertente. E poi quando becchi le macchine quelle belle, le piste quelle belle, tecnicamente dà proprio pista a chiunque. Praticamente quando i pianeti si allineano tutti assieme. Allora, secondo me Polifoni doveva sparare molto più basso. Doveva dire, guardate, ci sono 300 macchine, ed è un numero assolutamente fuori dalla grazia di Dio per qualsiasi altro titolo, perché ma chi volete che guardi mai 1031 macchine? Cioè, la maggior parte di quelle macchine non ci giocherà mai nessuno, ma mai, no. Mai. E abbiamo 300 macchine, abbiamo 18 piste, sono fichissime, l'online funziona, basta, bastava quello, senza sparare la NASCAR e il kart. Potevano fare come Rock Band, che importi le macchine dal gioco precedente. Ma potevano tranquillamente far uscire il gioco qualche anno fa con tutto fatto benissimo e poi andare dei DLC a manetta. Probabilmente non li sanno fare DLC quelli di Polifoni, perché hanno detto, cazzo, se dobbiamo fare un DLC dobbiamo rivendere il gioco. Cioè, mi immagino data disc tipo Amiga, quindi sì, ma DLC, cose che riguardano internet, sono proprio un problema per i giapponesi in generale. Però secondo me adesso come adesso Gran Turismo è un ottimo gioco di guida, sicuramente più divertente per quanto mi riguarda di tutto il resto. Poi adesso Forza 4 sicuramente implementerà il ciclo giorno notte, cose del genere, però per adesso io lo trovo veramente superiore a tutto il resto, non ce n'è proprio. E quindi lo consiglio. Oltretutto, giusto piccola nota, l'ho comprato da MediaWorld, dove non ho guardato, ho preso la Collector's Edition e c'era il libro in tedesco. sono tornato a casa, ho visto che il libro in tedesco, l'ho riportato e il tizio di MediaWorld ha detto però insomma vabbè te lo cambiamo, mi hanno ridato, ho preso a quel punto perché tutte le edizioni Collector's avevano il libro in tedesco. E mi sono preso quella normale e mi hanno ridato i soldi, un miracolo da MediaWorld. Incredibile. Il giorno dopo, quello era un venerdì, il giorno dopo sono andato a fare la spesa nello stesso supermercato, passo da MediaWorld e c'è un bel cartello con scritto: per quelli che hanno comprato la Collector's Edition e c'è il coso in tedesco, se ne occupa la Sony, noi non c'entriamo niente, non ci chiedete niente, meno male che sono passato il giorno prima. Scusa, però questo episodio devo fare un piccolo off topic relativo a MediaWorld, proprio me l'hai tirato fuori, non ne posso fare a meno, devi perdonarmi. Perché la mia ragazza un mese fa circa ha comprato il cellulare sul sito di MediaWorld, uno pseudo smartphone proprio entry level, diciamo, è arrivato ed era costava, adesso mi sembra 50 euro in meno rispetto al prezzo che c'era in altri luoghi, era un Samsung, è arrivato ed era in polacco. Io ho detto, beh, dammi qua, scaricato il manuale da internet in inglese, ho mettato con le opzioni, sono riuscito a metterglielo in italiano, e però il GPS era per forza in polacco. No, ma proprio anche i menu, perché la lingua del GPS era proprio dell'applicazione, non c'entrava con il resto del telefono. Al che, giustamente, abbiamo detto, vabbè, cambiatecelo. Cioè, ha fatto cambiare, gliel'hanno rimandato di nuovo polacco. No. Poi si è arrivati al punto che, dopo che l'hanno preso la seconda volta, le hanno chiesto, guardi, se paga, cioè se vuole mantenere questo prezzo, glielo rimandiamo così com'è. Se paga tipo 15 euro in più, glielo diamo italiano. E in pratica lei ha chiesto che le ridessero i soldi, e i soldi sono riarrivati solo adesso, un mese dopo, alla minaccia di vado all'associazione consumatori. Tra l'altro, in tutta la vicenda, ogni passo compiuto da loro, te lo sostituiamo, ti proponiamo di ridarti i soldi, ti ridiamo i soldi, arrivava solo dopo la minaccia. C'è associazione consumatori. È in polacco. In polacco. Quindi questi probabilmente hanno preso una partita di telefoni polacchi. Hanno fatto l'offertone. Esatto, sperando, contando sul fatto che un po' di gente se lo tiene così com'è perché non c'ha voglia di andare in sbattimento. Sì, comunque, io mi sono ritenuto molto fortunato, anche perché non solo mi hanno ritirato il coso e mi hanno dato quello normale, ma non mi hanno fatto neanche il buono, mi hanno ridato i soldi. Peraltro, questa cosa, al day one il gioco costava 69 euro la versione normale, 79 la Collectors, il giorno dopo quando sono andato costava 59 la versione normale, 69 la Collectors. Che merda. Vabbè, queste sono cose, io non ho detto un cazzo, ho detto, mi hanno ridato i 20 euro, cioè ho pagato 79, mi hanno dato i 20 di resto, quindi se andavo il giorno stesso del day one mi ridavano solo 10 euro, cioè. Vabbè. Poi magari vai a sapere, magari hanno rotto il day one, il giorno prima costava 89. No, perché sono passato il giorno prima. Ah. Sì. Però c'era una tizia polacca che mi voleva vendere un telefono. Va bene, e dopo questa simpatica, come dire, esperienza. Ma ricordato un po' quando c'era Gianluigi il momento. Ma difatti, Gianluigi, peraltro, adesso lo citeremo nella post, c'è prima o poi, insomma, dovrà tornare perché c'è sempre qualcuno che se lo ricorda con amore. Comunque, passiamo quindi, se abbiamo finito i giochi giocati, passiamo al consiglio del tentacolo. Allora, qualcuno ha qualcosa da consigliare? Perché ultimamente non è che i consigli saltino fuori così com'è. A parte comprare sul sito di MediaWorld. Vabbè, qua ci uccideranno ovviamente i sicari, lo uccideranno tutti e quattro. No, allora, io consiglio, l'ho appena iniziato, però è giusto consigliare letteratura del genere, soprattutto se vi è piaciuto Il pendolo di Foucault, accattatevi Il codice di Praga di Umberto Eco, che è uscito da pochissimo, è il solito mattonazzo, l'andazzo è quello, e compratelo perché secondo me, insomma, è giusto foraggiare la bella letteratura, anche romanzi, cose del genere, però bella, punto, ho finito. Io ho 3 episodi che vi consiglio un film horror inglese chiamato Triangle, ma io credo che ancora nessuno di voi due abbia seguito il mio consiglio. Avevo guardato sto benedetto film di questo povero sfigato che si chiama Christopher Smith, credo, che appunto non aveva dato un soldo bucato perché i suoi primi gli altri film erano abbastanza deludenti, invece dovete recuperare sto Triangle. Guarda, me lo guardo prima della prossima puntata, me lo guardo, che non so quando la registreremo, ma sicuramente me lo guardo. E già guarda, quasi quasi me lo guardo pure io, visto che ti sentivo dall'altra puntata che lo consigliavi. No, è già la terza volta. Il film horror non è neanche un film horror, più di suspense, cioè. Però secondo me ha degli spunti interessanti. E già che siamo in tema di film inglesi, non so se è uscito in Italia, ma c'è un altro genere completamente diverso, ma di Four Lions, che è una commedia, mettiamola così, di 4 bombaroli, suicide bombers di Sheffield alla volta di Londra, che rido perché effettivamente questo film fa ridere, nonostante il subject, la materia non sia proprio troppo umorista, ecco, umoristica. Però ecco, un altro film da recuperare, non so se magari finalmente esce in Italia, comunque varrebbe la pena perché comunque è una bella commedia. Di una personalità inglese che in Italia non credo nessuno conosca, credo sia Chris Morris, che è tipo una specie di Sacha Baron Cohen, anche lui inglese, ma un pochino più, cioè un pochino più pesante a volte, e che però ultimamente, negli ultimi anni, non è più molto conosciuto perché lui andava più che altro forte negli anni 90, quando gli lasciavano fare un po' più cose, ecco, tra cui uno speciale sulla pedofilia. in cui appunto è un po' come, esatto, un po' come faceva Sacha Baron Cohen con le celebrità, che come travestito da Ali G che andava gli metteva in ridicolo, lo faceva la stessa cosa, però lo faceva con tema tra i tanti temi c'era anche la pedofilia, che oggigiorno non credo gli avrebbero mai permesso di scamparla vivo. Comunque sì, anche Four Lions è una bella commedia da recuperare. Perfetto. Io intanto lo so che non lo farete. Io ti dico che sto ordinando il Blu-ray di Triangle su play.com. Beh, 9 euro, dai. E anch'io lo sto ordinando online. Mi picchierete la prossima volta che ci scommetto. Però un'estensione MKV non ho capito cos'è. Comunque. Pierpaolo, hai qualche consiglio da darci? No, io posso solamente fare il cagagazzi, visto nell'altra puntata, se non ricordo male, Andrea consigliava The Walking Dead, il telefilm. Sì. Io mi piace, siccome sono ipercritico, invece consiglio il fumetto, perché secondo me il telefilm, soprattutto nelle ultime 2 puntate, è veramente una cagata. Il no, fumetto, allora, io, no, il secondo me, è eccezionale. Sì. Allora, il telefilm io l'ho consigliato comunque dopo aver visto solo la prima, forse le prime 2 puntate. Non... Beh, per me è più facile, infatti, parlare adesso, visto che sono finita tutta la serie. Però devo dire che anche a me è calato l'entusiasmo, però non sono così, come dire, non lo condanno alla fine, tutto sommato nel complesso non è dispiaciuto. Devo dire una cosa però, adesso tu, avendo anche tu letto il fumetto, non so se sarai d'accordo, secondo me dall'avere letto il fumetto ne guadagna il telefilm, se non ti dà fastidio che cambino le cose, perché hanno giocato un sacco su ti faccio credere che sta per succedere quello e invece no. Non lo so, è proprio un'altra cosa secondo me, cioè hanno aggiunto troppa roba che non c'era nel fumetto, l'hanno troppo mescolata dal mio punto di vista per essere la trasposizione del fumetto. questo no, beh, ma capisco, è buono, sarà che a me queste cose in genere non danno fastidio e quindi magari non l'ho patita, però insomma mi sono divertito, fermo restando che sono d'accordo che alcune cose sono proprio, cioè in generale tutta l'ultima puntata, a parte alcuni momenti, proprio cioè non si può guardare. Capito, cioè, ma proprio una discesa inesorabile. No, è bello, è una bella serie sugli zombie, assolutamente, non da dire, soprattutto sulla, vabbè, come il fumetto sul rapporto intimo fra le persone piuttosto che la parte prende una deriva. Beh, però ad esempio il fatto che Shane, senza fare spoiler, però la cosa di Shane la stiano un po' più tirando per le lunghe, secondo me un po' gli aggiunge, lo stanno un po' più approfondendo così, anche se sì, aumentano la sfaccettatura forse dei personaggi da alcuni punti di vista, hai ragione. Poi vabbè, è anche da capire quanto io vedo in più nei personaggi, perché avendo letto il fumetto so anche poi che fine fanno. Esatto, sì, quello probabilmente ti arriva come influenza, però certe aggiunte proprio, cioè lo sai cosa mi sembra? Un telefilm, una prima serie di 6 puntate fatta di 4 puntate filler, che non concepiscono una serie di 6 puntate, capito? Questo tipo. Beh, ma poi comunque sono poche, cioè il problema è anche quello, erano veramente poche 6 puntate, secondo me. Comunque ho sentito che hanno licenziato tutti gli sceneggiatori, tranne lui praticamente, una cosa del genere, lo sbaglio? Lì è da capire, perché nel senso, comunque rimangono Daramont e Kirkman, che è lo sceneggiatore del fumetto, cioè alla fine rimangono loro due, sono loro due che danno la direzione, quindi di fatto sì, hanno sceneggiato tutti, ma sono 4 persone che hanno scritto una puntata a testa, non è che il cast che ha fatto le 20 puntate. Poi vai a sapere, nel senso, Daramont sostiene che, vabbè, però noi abbiamo fatto queste 6 puntate senza sapere se ci avrebbero dato la seconda stagione, giustamente questa gente ha preso altri lavori, uno c'ha la sua serie, uno c'ha i cazzi suoi, vogliono farsi gli affari loro, poi vai a sapere se è vero o se lui li ha cacciati o chissà che. Boh, comunque rimanendo loro due, io tutto sommato sono fiducioso, guarda. Sulla seconda serie. Comunque il fumetto è bellissimo. Se vi è piaciuto il film, se vi è piaciuto il telefilm e non avete letto il fumetto, recuperate il fumetto, sì, assolutamente. Sì. Tra l'altro poi il fumetto cresce tantissimo. Tantissimo. È finito e continua il fumetto? Continua, però è una di quelle cose che, nel senso, prima o poi ce l'avrà una fine, non è l'uomo ragno, per dire. Mi sembra sia al tredicesimo volume in America, se non sbaglio. Sì. 12 o 13. Da quelle parti. Andrea, dai, spara qualcosa. Boh, sinceramente non saprei. Posso dire che l'altro ieri ho visto Scott Pilgrim, il film. Ah, ma in italiano? Piaciuto? No, l'ho visto in inglese perché l'ho visto in Blu-ray. No, perché io c'ho la fissa del vederli in lingua originale, quindi. Sì. E mi è girato il cazzo, perché guardandolo ho detto, però sta roba sarebbe stata figa da vedere al cinema. Ti è piaciuto, quindi? Mi è piaciuto molto dal punto di vista proprio dell'impatto visivo, tutte queste idee che ci ha messo dentro. Sì, l'ho adorato proprio. Il fatto. Allora, avete presente Hulk, quello di Ang Lee? Sì, mi è piaciuto. Dio buono, è bellissimo. A me era piaciuto, però obiettivamente quel film lì era sto facendo un film tratto da un fumetto. Vabbè, ok, allora ci metto tutti i colori rosso, giallo e blu e faccio lo split screen per fare le vignette. E anche il padre di Hulk ci metto, scusa se te lo dico. Ecco, è quel concetto lì, cioè voglio fare il fumetto al cinema, però fatto da uno che sa cosa sta facendo. E quindi è pieno di idee, la musichetta, le didascalie, le scritte che saltano fuori, tonnellate e tonnellate di roba, la fusione con il videogioco, le citazioni messe lì, le scene che uno sta giocando a Zelda col Game Boy e la musichetta di Zelda nel Game Boy diventa la colonna sonora del film, ma in maniera è veramente pieno di ste cose che ti bombarda da tutte le parti e che comunque eredita dal fumetto, perché anche il fumetto era molto così, videogiochi infilati da dovunque, e è molto, secondo me è molto divertente, è bello da vedere sotto questo punto di vista. È anche fatto bene come trasposizione del fumetto, ovviamente hanno tagliato un po' di roba perché non ci stava tutto, però mi è piaciuto. No, però io so. Pensavo se per arrivare un ma qualcosa, tipo, ma mi ha fatto. No, ecco, forse non c'ho l'entusiasmo totale che ho visto per altri, però comunque mi è piaciuto un sacco, per cui nulla da dire, insomma. Io ho avuto l'entusiasmo invece totale, per me è uno dei film di quest'anno, mi è piaciuto da impazzire, e Vabbè, Andrea ha detto benissimo, ha descritto. A me piace un po' considerarlo, anche se è un paragone veramente malato, lo dico prima, mi piace un po' considerarlo una sorta di... cos'era il fantastico mondo di Amélie, il meraviglioso mondo di Amélie? Non ricordo, però, dal punto di vista del giocatore, cioè fatto da chi è veramente un giocatore malato, secondo me. Cioè, veramente tutti un film quasi surreale con tantissime connessioni videoludiche. Secondo me è veramente eccezionale. Tra l'altro, uno dei pochi film dove secondo me il film è molto meglio del fumetto, perché il fumetto dal quarto, se mi pare sei numeri, se non ricordo, dal quarto numero diventa anche una mezza cagata. Sì, ingarbuglia un sacco, sì. Comunque sì, io vorrei aggiungere due cose. Una è che odio Amélie. Dai, è un bel film romantico. No, bisogna fare un podcast di cinema in cui ci picchiamo dall'inizio alla fine. Che tardato lì. Vabbè, comunque. Già non ha detto quella lurida Troy. Verso metà film, ogni volta che mi guardava lei dallo schermo, volevo spararle. Cos'è sto rumore? Sento un rumore fortissimo. C'è una casa in fiamme. È lì che vuole entrare in casa. No, vabbè, comunque l'altra cosa è che il protagonista di Scott Pilgrim, nel senso che è adatto per il tipo di personaggio, però io vedere quella faccia, cioè perché è uno svampito lui, ma quella faccia da pirla che salta e tira pugni e si mena, non lo so, crea un bell'effetto, ma non lo so, mi rovina un po' la credibilità dei momenti d'azione. È un po' sempre comico lui con la faccia. Sì, c'ha sta faccia. Poi boh, perché alla fine nel fumetto è quello stesso personaggio lì, però non c'ha sta faccia da idiota. No, è molto più figo, anzi, infatti, nel fumetto, sì. Vabbè, comunque, insomma, sono minchiate. Alla fine è un bel film, è divertente. Bene, e allora arriviamo al micro angolo della posta, che in realtà io sento una marea in sottofondo, comunque, non so voi. Io non sento nulla. È che Amélie si è trasformato in ring, sta arrivando Samara. Non sento nulla. È come quando scorreggi che tutti sentono l'odore e tu dici, boh, io non ho fatto niente. Magari perché è colpa tua, non senti nulla. Infatti. No, anch'io sento un casino, spero di non essere io come al solito, però anch'io sento un casino. Mi viene da pensare allora che sia Davide, perché è l'unico che non lo sente. Vero. Sono io, evidente. Ma non ho cambiato un cazzo. Avevi fatto partire il torrent di Triangle. Ma no, lo sentite ancora il casino? No. No. No. Della fede. Evidentemente strusciandomi il microfono nelle mie parti basse ha avuto questo rumore. Che bella immagine. E, allora, due mail che in realtà sono estratti da quelle precedenti sui giochi. Francesco Landini ci appunto chiede Extra Video Games e gli consigliamo un'altra serie TV che non siano Lost e Walking Dead. Io personalmente guardo serie TV da vecchi, tipo The Mentalist o Castle, queste cose che danno sulla Rai e su Mediaset. La signora in giallo, tipo. Esatto. Quindi, Colombo è una figata, non tocchiamolo, per favore. E, quindi, vabbè, io purtroppo ho cose molto banali. A me piace, mi sto guardando tutta la serie di Castle, mi sta divertendo, però è un poliziesco divertente. Per esempio non riesco più a vedere roba, ecco. Io personalmente non sono mai riuscito a vedere cose tipo Lost, dove se ti perdi due puntate sei fottuto, perché non ho il tempo di... cioè non... e anche roba stra... come dire... triste, tipo CSI o Criminal Minds, che veramente sta diventando troppo morbosi. Mi sono rotto le palle, ho voglia di ridere, quindi mi guardo queste vaccate tipo Castle, Mentalist, che almeno... lasciano il tempo che trovano, e se ti perdi una puntata te la rivedi dopo due settimane e non c'hai il problema che il fumo nero non sai cos'è perché non hai visto la puntata numero 18 della terza serie, ecco. Quindi voi avete delle serie TV oltre di quelle che abbiamo parlato? Io ne ho una che mi ha trasmessa l'anno scorso la prima serie, o forse due anni fa addirittura, in Inghilterra, che è Misfits, che adesso credo la seconda serie sia appena iniziata, ed è un telefilm inglese cortissimo, la prima serie come fanno di solito qui in Inghilterra, cioè fanno 6 episodi giusto per vedere se resistono e gli danno i soldi per la seconda, e parla di 5 ragazzi ASBO, che è un acronimo inglese per dire insomma ragazzi scapestrati, che si trovano insieme durante una tempesta, vengono presi in pieno da dei fulmini che gli donano appunto dei superpoteri, che è abbastanza cliché come premessa magari, però il modo di scrittura, comunque la caratterizzazione dei personaggi è unica, molto sboccata ma anche molto creativa nel modo in cui si sviluppa la trama, e i personaggi sono proprio simpatici, proprio ispirano fiducia, e il fatto che comunque sia una serie, la prima serie sia abbastanza corta non guasta, perché comunque non, e poi un'altra cosa che è una cosa abbastanza geniale, non ti svelano subito i poteri di ognuno, così c'è una specie, un certo suspense di capire chi potrà saper far cosa, quindi comunque dura poco, quindi uno se la gode in fretta volendo. E comunque sì, non è cliché la premessa, ma il modo in cui viene si sviluppa la trama è molto particolare, anche perché osa non soltanto nel linguaggio ma anche nelle situazioni dove magari una serie prettamente americana il rating non gli avremmo mai e poi mai permesso, ecco. Quindi consigliatissimo davvero Misfits. Ecco, mi collego alla tua cosa per dire che esisteva una serie quando noi eravamo più piccini che si chiamava sempre The Misfits e era sempre un gruppo di ragazzi che aveva i superpoteri, peraltro dello stesso creatore di Heroes, quella serie americana, però c'era una Courtney Cox diciottenne che meritava, sì. Giusto perché l'hai menzionato, dimenticati di Heroes, per fortuna, la Misfits è su un altro pianeta in quel rispetto. Però allora forse è un omaggio. Se ma può darsi che l'idea sia avvenuta così. Non so se... Perché l'originale era The Misfits of Science, quello con Courtney Cox. E invece, non so se l'ho già consigliato in qualche altro episodio del Tentacolo, però una serie inglese che mi è piaciuta tantissimo e che è brevissima perché sono solo due stagioni, è Life on Mars, veramente bellissima, e narra la storia di un poliziotto a Manchester, negli giorni nostri, che durante un inseguimento a un incidente finisce in coma e si risveglia nel 1973, mi pare, comunque negli anni 70, e lui è un poliziotto negli anni 70 in una vita coerente, perché lui non è che appare dal nulla, e quindi va a fare poliziotto nel distretto di Manchester negli anni 70. Lui ovviamente conosce, cioè lui pensa di essere in coma o comunque lui è in coma e quella è una sua percezione dello stato comatoso, ovviamente la serie ci gioca su questa cosa, non si capisce se è veramente tornato indietro nel tempo o se è il suo stato di coma che gli permette di avere queste allucinazioni. E comunque è una serie molto molto interessante, molto europea, perché c'è una puntata bellissima su una sfida sul derby tra Manchester City e Manchester United degli anni 70, veramente eccezionale. Purtroppo gli americani, come fanno sempre, hanno preso la serie e l'hanno ambientata a Los Angeles. C'è un'altra serie che si chiama uguale, Life on Mars, hanno comprato il format, che io non ho mai visto, ma mi hanno detto tutti che fa cagare. Quindi mi pare siano, comunque sono pochissime puntate, sono due stagioni, ve la consiglio perché è veramente bella. E poi è una cosa, insomma, non la solita serie dove si spara, si ammazza, esplosioni, molto molto fine secondo me. Scusa, ma l'hai visto il seguito? No, non l'ho visto il seguito ancora. Sto curiosando su Wikipedia mentre parlavi e qua dice oltretutto che spiega... No, non l'ho ancora visto, so che c'è un seguito... Come si chiama? Dove si chiama Ashes Life to on Mars, però. Ashes to Ashes, esatto. E la protagonista è lei. Vabbè, sì. No, non l'ho ancora visto, ma lo vedrò, perché è una delle cose che ho in canna da 15 anni, credo. No, da qualche mese, quindi insomma. È una dimostrazione di quanto non soltanto il personaggio principale della serie Life on Mars fosse ben scritto, ma soprattutto i comprimari, perché erano così forti da poter basarci una serie separata. Quindi... No, ma lì hanno fatto un'operazione di caratterizzazione strepitosa, secondo me, di quei personaggi lì, perché tutti sono portati un po' all'eccesso. Cioè c'è il capo del distretto che è veramente un coglione di proporzioni ciclopiche, e gli altri sono degli sfigati, lui è una persona... Cioè, sono caratterizzati benissimo, e quindi sì, l'hanno caratterizzati talmente bene che possono fare uno spin-off, probabilmente anche abbastanza di successo, con dei personaggi secondari, senza più il protagonista, che non è banale la cosa. E poi veniamo all'ultima mail, di nuovo di Fede il Mito, sempre un estratto da quella precedente, ma solo che prima non c'entrava una mazza con i giochi giocati. Allora, cosa ne pensiamo di Kinect e Move? Beh, è un discorso un po' lungo. Personalmente non mi sarei mai aspettato che Kinect funzionasse, e funziona, perché poi ho visto il Moderna... Come dimostrato dal salotto del Moderna. Giocarci come un pazzo, e non mi aspettavo che vendessero così tanto subito. Poi magari non venderanno a lungo, su un periodo molto più lungo, però comunque sia Kinect che Move hanno avuto un botto di vendite non indifferente. Io ho comprato Move, mi sono pentito perché... No, devo essere sincero, ho comprato iPad per vedere se funzionava veramente, non è che funziona proprio benissimo, eh. Cioè, cacchio, a riconoscere le mani ci mette veramente, devi stare lì a agitarti come un pazzo. Invece il Move lo riconosce subito e si muove, però insomma, abbastanza deluso. Poi, siete felici perché, non so se volete dire qualcosa su questi due oggetti. Basta, non ne posso più. Mi asterrei, anch'io, no, mi asterrei. Io apprezzo tutto l'insieme, mi divertono i giochi casual, eccetera, però all'ottava recensione di un gioco Kinect è meglio che stia zitto. No, poi, anch'io come te non credevo a Kinect, l'ho provato con la donna, ho fatto un weekend intero, comunque è molto divertente, certo. Parliamo sempre di giochini al momento, però è molto, funziona bene. E voi che l'avete provato, però, mi confermate, perché ovviamente sentendo il podcast, vedendo le video recensioni dell'altro, che lo spazio necessario è ben ampio per giocare in gioco. Sì, non sì, si sì, può sì. fare alla cazzo così. Ma anche per giocare da solo, perché poi comunque c'è sempre il fatto che devi, cioè, devi muoverti, cioè non è solo una questione di avere quel che chiede, cos'è, 1,80 m, ma ti serve di più perché sì, se no ti ammazzi. Cioè, sì, ma è anche molto, è molto legato a quanto sei alto, anche molto a quanto sembra una cazzata, ma è legato tanto a quanto sei alto, perché comunque nel 1,80 m la mia ragazza, che è decisamente più bassa di me, ci giocava bene. Okay. Sì, vabbè, è chiaro, poi dipende può dipendere da mille fattori, però c'è il rischio che ti serva molto più spazio di quello che hai. A me sicuramente, che dovrei rivedere tutto il salotto. Poi ci chiede se siamo felici dell'uscita di Gran Turismo 5. Io sì, altre persone meno. E poi cosa? Chi? E poi una cosa che mi ha messo un po' di malinconia, anche se apprezzo il gesto. Infine volevo dirvi se avete bisogno di un aiuto per il podcast. Ti ringrazio molto, mi fa molto tenerezza questa cosa, deve essere veramente una merda. Però insomma, no, per adesso non ancora, grazie, poi al massimo se crollerà la situazione. Vabbè, oh, magari può farti comodo, non so, un babysitter mentre facciamo il podcast, cose del genere. A me sì, sicuramente. Al solito lo drogo il bambino. E poi saluti, arrivederci, e Gianluigi ritorna, che sembra tipo calcistico. Poi due cose per Andrea: tu compri i giochi a 20 euro, li compro a 10. Buon per te. Però il buon Andrea se li ha anche gratis ogni tanto i giochi. E poi per Davide: grandissimo, ti ho sentito nella puntata 100 di Multiplayer.it. Ringrazio qua Pierpaolo, insomma, di avermi scelto tra i mille e mille. Comunque, che peraltro vorrei sottolineare che per piacere. Ti ha chiesto se ti serve aiuto e vuole che ritorni Gianluigi. Io ci leggo del sottotesto qua, però effettivamente se può esserci un messaggio subliminale, che però sono così stanco che non riesco a percepire. Comunque ragazzi, siamo arrivati al fondo di questa puntata. Io ringrazio in primis Pierpaolo che insomma tra una caduta e l'altra è riuscito ad arrivare fino al fondo, grazie molte. Sono riuscito nel difficilissimo tentativo di rovinarvi il podcast. No, il sottoparlato tra l'altro è sottoparlato riuscito anche qui a... esatto. Beh, no, grazie della presenza e ringraziamo Paolo per il fatto che tra poco la sua vita diventerà un inferno. Grazie mille. No, scherzo, eh? Però la borsa è fatto bene a farla. E poi ringrazio Andrea della solita pazienza e di aver giocato mille ore al Kinect. Figurati. E no, però devo essere sincero, ho capito, per esempio, quanti cazzo di giochini ci sono in Kinect Sports, come cacchio si chiama, perché avevo dei dubbi e invece... Va bene, io vi ringrazio, un saluto ragazzi e buonanotte, e alla prossima, buon anno, buon Natale, buono tutto. Tante care cose, tanti cari regali, mangiate al cenone di Natale, di Capodanno, divertitevi, bevete, ubriacatevi. Basta. Guidate poi e schiantate. Ovviamente dopo, dopo droga e alcol guidate. Sto scherzando. Ma se chiedete poi colpa ai videogiochi siete a posto, non vi preoccupate. Esatto, infatti. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Come sempre, i riferimenti del Tentacolo sono il blog, il tentacoloviola.splinder.com, dove potete anche trovare tutti gli episodi e anche il link alla nostra pagina Facebook, Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo e la nostra mail che è iltentacoloviola@gmail.com. Ovviamente ci potete trovare su iTunes semplicemente cercando Il Tentacolo Viola. Vi ricordo inoltre che Game Patchwork potete trovarlo direttamente o su YouTube cercando Game Patchwork o anche su parliamodividogiochi.it e Players che potete trovare, come già detto durante la puntata, all'indirizzo www.playersmagazine.it. Vi ringrazio, un salutone a tutti, ciao! I'm